a Mario te conviene rifiutare, non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo, ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera, e questo dice il popolo di Roma. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Il grande Giorgio Napolitano è veramente un grande italiano. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è, Giorgio, come dice la canzone. Lo dico a tutti coloro che pensano che, dicono facilmente, larga intesa, un bel governo Bersani-Berlusconi. Grillo aspetta solo questo, la logica per la quale la divisione del campo lui la vuol fare tra la nuova politica fatta dalla gente e la vecchia politica fatta dai politici, e creare una sorta di Bastiglia in cui poi la gente possa prendere la Bastiglia. Dico che la peggiore cosa che possiamo fare è aiutare questo schema. E pensa solo al suo partito. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. La Bindi sa sempre quello che dice. Era Enrico Letta del marzo 2013. Del marzo 2013, non di due anni fa, marzo 2013, che diceva: il governo di larga intesa conviene solo a Grillo, hai capito? E quindi? Puoi far polemica col PD, lei, pur di far polemica col Partito Democratico, farebbe qualunque cosa, signor Cruciani. Ma no, dico che in politica si cambia idea dopo un minuto, non bisogna stupirsi. Beh, Rotondi ce l'ha sempre detto, no, l'ex ministro lì, Rotondi. Sì, sì. Il grande Buon pomeriggio da Perugia, buonasera! Applausi veri questi! Cantiamo insieme! Meno male che Giorgio c'è! Meno male che Giorgio c'è! Senza Gasparri, perché se si inserisce sempre quel Gasparri lì in mezzo. Meno male che Giorgio c'è! Fatemi sentire subito la voce dell'ospite. Che hai, Gasparri? Grazie, vedi. E nel PD rovina tutto, come sempre. Oh, nel PD vanno già molto d'accordo, eh. Sentite Boccia, niente di scandaloso se il PDL mette i suoi vertici al governo. Io penso che non ci sia niente di particolarmente scandaloso se al PD che ci mette il numero uno, il numero due. Stessa cosa sarebbe successa con il governo fatto da Bersani incaricato se gli altri partiti ci mettono i vertici. Meno male, meno che, male Giorgio che Giorgio c'è. Pippo Civati, la sentite. Sa sempre quello che dice. Che questi sono dei toni da fuori di testa più che fuori dal partito, perché non abbiamo ancora discusso di questo governissimo, perché abbiamo semplicemente chiesto a Napolitano di indicare una soluzione, però non è che dobbiamo per forza essere tutti d'accordo senza nemmeno poterne parlare liberamente. Che Giorgio c'è. Che bel clima. Io poi non capisco una cosa, scusa, perché se tu decidi di fare il governo col PDL, sì, poi devi dire Brunetta no, Schifani no, sì, Gelmini no. O li prendi o non li prendi. Ah, sei d'accordo anche tu su questo, sì. Beh, io ho l'idea che il signor Verdini, cioè, il punto è che siccome, governo, siccome per una vita hanno detto che quelli facevano schifo, che erano delle merde, adesso sono costretti a fare il governo insieme, adesso ti becchi Gelmini, Brunetta, Schifani, no, Schifani al governo sarebbe meraviglioso. Renato Schifani al governo. Sì, io lo voglio! Lo voglio! Non è possibile, no? Schifani no! Dario Fo, lei vuole Schifani al governo? Scusa, prima di tutto dovete alzarmi un po' il tono, perché. Sì, sì, lo sappiamo, sì, che lei. Sì, sì, è. Come c'è, sta? Il problema è sempre nostro. È un premio Nobel, però, sì, abbi rispetto. Signor Fo, buonasera. Signor Fo, buonasera, innanzitutto. Buonasera. Senta, l'idea di Schifani al governo, mi dica un po', la fa rabbrividire, cosa fa con Schifani al governo? Ma il gabinetto? Ma ripeto, sento molto male. Oddio, sente, ma adesso urlo, adesso urlo. Solo a parlare Schifani non sente male, capito? Il problema è che mi sa che la parola Schifani le fa un po' orrore. Sente bene, allora la scandisco bene. La scandisco bene. Non sto fingendo. Adesso sento già un po' meglio. Oh, un applauso da questa folla qui. Un applauso da questa folla comunista e antifascista. Sicuramente è così. I giornalisti sono tutti di sinistra e antifascisti di principio. Scusi un attimo. Signor Fo, ma la parola Schifani, adesso lo pronuncio bene, Schifani al governo, le fa orrore? È un'omatopeica, già dentro c'è il rifiuto di accettazione e soprattutto un senso di angoscia e di repulsione nel suo nome. E quindi io mi rifaccio a questa forma, diciamo, sonora e soprattutto onomatopeica, come dicevo prima. Cioè Schifani uguale schifo, insomma, questa è la sostanza. Le non esageriamo, non manchiamo di rispetto. Non manchiamo di rispetto? Ha detto la forma onomatopeica, Schifani, io non devo mancare di rispetto. Vabbè, comunque, l'idea di un governo, caro Dario Fo, dove ci sono? Che ne so, la Gelmini, sì, Brunetta, la Gelmini. Ecco, per esempio, Brunetta, che effetto le fa? Se mi permettete, velocissimo, sì, un po' più generale. Io dico la verità, in questo momento sì, sono felice, perché ho saputo che ieri dai nostri giudici è stato sospeso un processo molto importante, il primo che riprendeva proprio contro Berlusconi, e questo diciamo processo non verrà ripreso, non si sa quando, insomma. Ma perché quando? Diteci almeno un nome. Perché no? Ecco, questo è stato. E qui piano piano tutti gli altri processi, uno dietro l'altro, dovrebbero partire a giorni, ecco, anche loro verranno sospesi di sicuro. E questa è una cosa che io trovo bella, perché l'idea che si formasse un governo nel quale magari trovi uno come Berlusconi, che magari è ministro, oppure anche sottosegretario, non importa, ha una carica, che a un certo punto viene avvertito che è stato condannato e tutto il popolo italiano si ritrova a sapere che un proprio ministro, una propria autorità era sotto processo e finalmente, nel senso francese del termine, l'hanno condannato, ebbene sarebbe una vergogna per il nostro paese, capito? Cioè, lei mi adesso sta questa dicendo vergogna che... non l'abbiamo più, questa idea veramente di inciuccio insieme, per cui uno ha detto tu salvi me, io salvo te, è veramente meravigliosa. Stiamo salvando, non si salveranno certi i disgraziati, i poveracci che non ce la fanno a vivere e a campare, ma è importante che si salvi il governo, capite? Questo è quello che ci importa. Scusi Dario Fo, dunque lei mi sta dicendo che paradossalmente è meglio Berlusconi al governo, così subito arriva una valanga che spazza via tutto, no? Sì. Dimmi. Arriva, non ho capito la battuta. Scusa. No, dico, se Berlusconi fosse al governo, lui in persona, sarebbe paradossalmente meglio, perché così arriva una valanga via che spazza tutto, valanga con i processi, le condanne e quant'altro. Ho detto, sarebbe una cosa straordinaria. Questa notizia che vi do non è apparsa sui giornali. Ma che c'entra col governo, però? Scusi, Dario Fo, ma che c'entra col governo la sospensione dei processi? Non c'entra niente. Non è che i processi vengono sospesi perché c'è un governo col PD e col PDL. Normalmente, ma in questa volta è proprio per quello, l'hanno detto anche. Perché c'è l'inciuccio in un momento delicato attraverso e non è proprio il caso che noi in un momento simile si arrivi a svolgere processi mettendo a disagio persone, personaggi e soprattutto autorità. Scusi un attimo, ma però eravamo rimasti alla parola Brunetta. Ecco, quando io pronuncio davanti, sai, Brunetta che giura con un... Ma anche una certa età. Aspetta, ma scusa, ho capito perché Brunetta gli deve fare schifo per forza. Brunetta, scusa. Beh, per forza no, però. Scusa, se lei vede Brunetta che giura davanti a Napolitano. Cretino sei. È la cretino. Prima cosa che faccio, cerco un seggiolino per poterlo mettere a livello all'altezza, insomma, della situazione. Ah, lei dice che per giurare ha bisogno di mettersi su un seggiolino. No. Eh beh, per un minimo, ma è una gentilezza che si fa a Brunetta e anche alla società, perché non hai questa angoscia veramente di qualcuno che non ce la fa. Bisogna aiutarlo. Io sono sempre contro prendere ironia e grottesco sull'altezza. Beh, su, per esempio, Berlusconi, non ho mai detto che è piccolo, ho detto è un po' basso, l'unica cosa che ho detto, ecco. Però insomma, ecco, dire, la scena di Brunetta che giura con un seggiolino sotto è una scena, sarebbe meraviglioso, devo dire la verità. Il signor Fo è un attore. Sarebbe una cosa meravigliosa, però non accadrà. Oppure, ma ecco, una Brunetta. Ecco la scaletta, forse. Ecco la scaletta, sì, perché non pensarci? Una scaletta, sì, una scaletta. Si può arrivare al tavolo. Una scaletta, una scaletta. Però è una cosa vagamente. Insisterei, perché non è mai. Non insisterebbe, meglio di no, anche perché parte la querela. Diciamo dalla situazione fisica di un personaggio per denigrarlo, perché guardiamo invece il suo cervello, quello sì che è una cosa che bisogna denigrare. Cioè lei dice, è ancora più piccolo della sua altezza. Va bene. È un mistero buffo, diciamo, anche quello sull'intelligenza, però vabbè. Cioè l'intelligenza di Brunetta in questa situazione ci sono molte cose che provengono direttamente dal mistero buffo. Mi hanno copiato, mi hanno copiato delle scene intiere. Quello è vero, però questo è vero. Tutto l'andamento del governo fa parte di una famosa scena di mistero buffo che si chiama La risurrezione di Lazzaro. Il governo tanto per ridere. Scusi, però diciamo la verità, lei che è sempre stato un anti-berlusconiano di ferro, no? Perché dice così? No, perché così, etichetti le persone così? No, tu? Effettivamente. Però, ma insomma, diciamo che non mi è molto simpatico, ma anzi, è qualcosa che non so, come se io vivessi ogni momento con l'odio e il rancore. Non ho rancore. No, certe volte mi fa tenerezza, specie quando racconta le barzellette, e soprattutto quando dice balle terribili. Dopo due secondi si contraddice. Beh, quello effettivamente non avete capito quello che ho detto. Però nel PDL ci sono brave persone. Una brava persona ci sarà nel PDL. Sì. Il nome di uno che merita il rispetto. Che ne so. Purtroppo aspetti, ne conosco troppo pochi di questi personaggi di questa congregazione. Congregazione, è un partito. Delle persone per bene. Secondo partito bisogna italiano, che me le presentiate, però. Alfano, che il signor Alfano. Non ci arrivo a trovarle. Niente. Sono Alfano, anche ho problemi. Niente. Alfano, uno ce ne sarà uno. Non ho capito bene. Alfano. Sì, ho capito, Alfano. E poi... sei una brava persona, cioè, no? Almeno ce ne sarà uno. Uno. Ma in Lombardia si dice, molte volte si dice è una brava persona, per significare che non conta granché. Che perla. Ah, ok. Ah, sì, beh, questo è vero, devo dire la verità, su questo non ha tutti i torti. Non ha tutti i torti. Però io voglio che lei critichi un po' Beppe Grillo, perché diciamo la verità, sì, questo sì, un po' dal suo punto di vista è colpa sua se siamo arrivati a questo inciucio tra PD e PDL, perché insomma bastava che, ne so, che dicesse a un certo punto noi votiamo con patti per Prodi Presidente della Repubblica ed era finito tutto, non con questa stronzata delle quirinarie in cui hanno votato 28.000 persone per scusi per la parolaccia non avevo capito, ma no, l'importante è che una certa parte di persone indicasse con intelligenza cioè voglio dire è molto meglio Berlusconi, che lui da solo sceglie senza che nessuno lo disturbi, ha ragione. 20.000, 30.000, che significato ha? Quando un uomo ha del potere è meglio che sia da solo a decidere, ha ragione, bravo. Scusi un attimo, ma secondo lei Napolitano ha un po' violato la Costituzione in questi giorni dicendo per esempio al Parlamento o fate un governo subito oppure prenderò provvedimenti, in sostanza ha detto sciolgo il Parlamento se non fate questo governo di larga intesa? Tutto è stato proprio veramente da encomio solenne la forza con cui ha detto a tutti i ministri, tutti i sottosegretari, tutti i personaggi del governo uscente, proprio il caso di dire, che avevano fatto cose ignobili, indegne, da vergognarsi, hanno truculdato, falsificato situazioni. È loro ad applaudire, menzogne. Ed era meraviglioso, devo devo dire che tutti questi che venivano indicati come colpevoli applaudivano. È come non so, andare in un processo e vedere il ladro che finalmente, quando il giudice dice è colpevole, sì, è vero, sono colpevole, e applaude. Ecco, siamo nella siamo in un paese di matti, perché su in questa... quella condizione proiettata e fatta conoscere, non so, alle città, alla televisione di tutta Europa, io credo che sarebbero delle matte risate, insomma, che verrebbero fuori. No, ma su questo lei ha perfettamente ragione. Un attimo solo, il traffico, torno subito, perché vorrei che lei mi intonasse la canzone del giorno. Non quella famosissima, io non sono appassionato. Cosa? Non conosce la canzone di Dario Fo? In prima fila viaggino i ministri e i sottosegretari. No, ma oggi è il 25 aprile, che c'è? Comunque, vabbè, quello che vuole, la sento in forma stasera. Traffico, torno subito. Le zanzare di casa mia. In diretta qui da Perugia, Festival del Giornalismo, siamo qui. Buonasera, compagni e zanzara, compagni. Un applauso per Dario Fo. Premio Nobel. Grande antifascista. Tutti ragazzi hanno Dario. Da. Così, un omaggio al maestro. Che canzone le viene in mente oggi? Maestro, appunto, che canzone le viene in mente? Intonato proprio. Com'è che fa? E quello, bisogna remare, tutti insieme remare, e bisogna cantare mentre si rema, perché siamo tutti nella stessa barca, una barca che sta andando a picco, teniamola su, per carità, remate, anche voi dovete remare. Ma io sono venuto in Jaguar oggi, comunque vabbè. Senta, ma quando di fronte a questo governo PDL col PDL dentro di nuovo, non è che... si dovrebbe fare una bella scampagnata in montagna col fucile, adesso la sparo grossa, però sa, non si sa mai. Beh, io trovo al di fuori di tutto che questo ensemble, questo incontro, questa parola che io non voglio usare, così soltanto di sfuggita, questo inciuccio, insomma, ebbene, è veramente grottesco. In fondo ci rubano, dico a noi, a voi, a me, ci rubano il mestiere, perché ci portano via cose importanti per la nostra, per il nostro fondo strutturale del discorso. Adesso la gente, come la facciamo ridere dal momento che siamo arrivati a questo punto? Il discorso no, voglia risate. No, voglia risate, ci divertiamo molto di più. Anche, ma voglia, voglia. Però, senta, ma quelli che hanno sulle dita. Sulle palle. No, sulle palle è meglio. Volevo evitare la trivialità, insomma. Senta, ma infatti fino adesso. Come li chiama quelli che hanno impallinato Prodi, lei? Quelli che hanno affossato Prodi, diamogli una definizione. Ne hanno detto tutti i colori in questi giorni. Hanno fatto una cosa che è veramente indegna, perché era molto più corretto che lo dicessero subito, prima. Hanno avuto la possibilità, c'è stato un discorso. Sì. Non si fa un applauso e poi ti metti subito a tirare bordate addosso facendolo saltare. Vabbè, diamo una definizione, che ne so, dei miserabili, come sono? Dei miserabili, dei traditori. Non voglio usare, ma insomma, diciamo che io ce l'ho la parola, abili distruttori della parola data. Abili distruttori. Però potrebbero essere anche dei collaborazionisti. Che dice lei? Si ricorda durante la seconda guerra? Usare 10.500 termini uno dietro l'altro, certo. Zozzoni, vigliacchi, maledetti, bastardi, tutto si può usare in questo momento. Diciamo qualcosa, pensando nella situazione in cui ci hanno messo, perché quel botto fatto a quel punto è stato deleterio, è stato un jeu de massacre proprio. Ma che botto, scusi, che esplosa qualcosa? Il botto, la non elezione. Di Prodi, certo. Prodi. Scusi, ma secondo lei Enrico Letta è praticamente la stessa cosa dello zio? È come avere lo zio al governo? Battuta bella, me la ricorderò. Quale? No, ma è una battuta, glielo chiediamo però, maestro. Ma è anche banale, è fatto, in realtà. Ma diventa battuta. In questa situazione anche parole normali, di consuetudine, diventano scene e diventano grottesche. Perché senta, è la situazione che fa diventare grottesca le cose, mica la battuta per se stessa. Ma insomma, questo PD è un fabulazzo osceno, per usare uno dei suoi, una delle sue PS. Bravo, l'hai trovato, il fabulazzo osceno, proprio così, perché ci troviamo nel guaio di sentir parlare seriamente delle persone e dietro si sa benissimo che cosa c'è: salvare da una parte il partito, il PD, dal guaio, dalla sbarullata in cui si ritrova, e dall'altra parte salvare dalla galera. Non ci andrebbe in galera, ma sarebbe costretto ad andarsene dall'Italia, insomma non potrebbe più fare niente, bloccato. Berlusconi è salvo, è quello che è importanza. Oggi lei è un giorno felice, è quello della liberazione. Abbiamo liberato Berlusconi dal guaio di sentirsi colpevole. Non è colpevole. Non è colpevole, questo vedremo naturalmente. Ma lei se lo augura Berlusconi in galera? No, non può andare in galera, ha fatto una legge apposta per andarci. Sì, no, d'accordo, però l'hanno votato. A lei piacerebbe anche quelli del PD. Ma lei piacerebbe l'idea di Berlusconi in gattabuia dietro le sbarre? No, con una palla piede, magari. Galera, non piace l'idea della galera, ma avere se non altro la soddisfazione di assistere a una chiusura di un processo per sapere se veramente è innocente o se è colpevole, perché noi non lo sapremo mai, non si farà mai quel processo, si rimanderà all'infinito. I nostri nipoti tra 200 anni e diranno: ma piuttosto quel processo lo facciamo o non lo facciamo? Grazie, buona serata, a presto, grazie. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito. Moderato, signor Po, moderato con Brunetta soprattutto, molto moderato. Lo scabellino vuole mettere. Molto moderato. Sei un cretino, idiota. Bene, William da Pistoia, per concludere questa prima parte, abbiamo due minuti, non mi faccia perdere tempo. William, su, buonasera. Hola, salve, ciao a tutti. Hola. Allora, il mio è un desiderio, parlando dei gay in generale. No, basta così, gay. Oggi non voglio parlare dei gay, ne parlo. Ne parlo anche troppo, su, dai. Ho viaggiato con due persone che si baciavano, William, per venire qua. È uguale, ti assicuro. Uguale. Due donne che si baciavano, una cosa incredibile. Bello. È stato un regalo di una persona. Vabbè, allora? Almeno. Deve essere un servizio delle ferrovie, forse. No, vabbè, che vuole? No, non è le ferrovie, è in macchina. Vabbè, William, allora, che vuole? Allora, no, il discorso che dovresti fare questa specie di rubrica interessante. Su uno stile di vita delle coppie omosessuali, che secondo me è uno dei migliori, perché in assoluto è libero, è completo. Ma lei è omosessuale? E se fa questa ma lei è omosessuale o no? Questa rubrica dovrebbe chiamarlo Festini Incrociati. Festini Incrociati, ci sta suggerendo un programma. No, incrociati. Festini Incrociati, questo vuole chiamare. Io non ho capito, ma lei ha perso. No, io non ho capito. Lei ha preso il telefono, ha composto il numero della radio di Confindustria, per giunta, per dire questa stronzata, per dire che dovremmo fare un programma Festini Incrociati. Io non lo so, Sì, ma no, mi avete chiamato voi, però. Sì, vabbè, poi noi richiamiamo per non farla spendere. Lei ha telefonato. Sì, no, volevo provare come funzionava il telefono. William, si vada a fare una doccia. Giovanni da Torino, buonasera. Giovanni. Buonasera, Lorenzo. Veloce, che dobbiamo chiudere. Anzi, no, ci sentiamo dopo, fra un quarto d'ora, giornale radio. Io ascolto la Zanzara perché ogni tanto voglio averlo duro al castello di Genova. Duro. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tondino. Intanto è finito lo streaming tra Enrico Letta e i Grillini, pare con un trionfo, almeno da quello che leggo in giro, da un trionfo di Enrico Letta, che ha chiuso dicendo alla Lombardi e a Crimi una frase meravigliosa: dite a Grillo che anche i morti dopo tre giorni possono risorgere. Applauso per questa frase. Bravo Letta! Bravo. Vabbè, tu sei di parte perché lecchi il culo, bravo, come al solito a Enrico Letta. No, tutti quelli che attaccano Grillo sono miei, tutti i nemici che attaccano Grillo sono miei amici. Fischiatelo questo buffone. No, ma perché devi chiamare? Vedi, vabbè, comunque no, perché non sono grillini. No, compagni. Intanto l'altro giorno il presidente della Repubblica Napolitano ha detto che la stampa deve collaborare. La stampa, non il giornale di Calabresi, cioè no, la stampa no, in generale. La stampa già, l'informazione deve collaborare, cioè non deve rompere le scatole. Sì, abbassare, no? I toni. Abbassare i toni. Sì. Come facciamo noi di come solito? Come deve Prodi? Napolitano. Con calma. Io confido che tutti cooperino, e quando dico tutti mi riferisco anche in particolare ai mezzi di informazione, a favorire il massimo di distensione piuttosto che il rinfocolare vecchie tensioni. Penso che questo potrebbe davvero fare bene al paese e ve ne ringrazio fin d'ora. Ed è per questo che mandiamo la chiamata a Onida ora, subito. Non si può più mandare. Noi non collaboreremo naturalmente, anzi mi piace ricordare quello che gli sgommati hanno dedicato a questi due signori qui presenti. Ma io sto a fine mandato, mancano 4 giorni, tengo 88 anni e mangio tutto cazzo. E ma già toglie una soddisfazione. E quale? A me quel Cruciani della Zanzara. Vi siete fatti prendere in giro come babbei, anche voi grillini. E ma veramente. Aspetta, zitto. Mo si fa come dico io. Ha già fa una pazzia. Prima di lasciare il Quirinale voglio pareggiare il conto con sto Cruciani. Pronto, casa Cruciani? Sì? Sono Napolitano. Oh, presidente, che onore. Lascia fa, ti voglio dare un'esclusiva. Ah, grazie. Prendi carta e penna. Fatto. Lo sai chi sarà il prossimo presidente della Repubblica? Chi? Stuga! Oh, 1-0 e palla al centro. Vai io, già fa sempre tutti io. Ti farò quello che vuoi. Ma che mondo è questo ormai? Sentiamo come il TG3 riassume la giornata. Poi sentiamo Ricoletta sui grillini, perché lo voglio sentire. TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersaglia. Giornata di consultazioni per Letta, la vita del governo legata alle riforme, il PDL alza il prezzo su ministri e sulla restituzione dell'IMU. E a proposito di ministri, dal Texas Berlusconi fa sapere di non aver messo veti sulla cancellieri, non voglio pensare all'ipotesi di un fallimento. Dal PD sostegno al nuovo esecutivo, Renzi a fianco di Enrico, non bisogna disertare, ma nel partito restano i dubbi sull'alleanza col PDL. Vendola mai al governo con il PDL e la Lega non entreremo, ma aspettiamo il programma. Grillo con Letta il 25 aprile è morto. In tutta Italia si celebra il 25 aprile il Napolitano l'esempio della resistenza. Nei momenti cruciali servono coraggio e fermezza. Il commissario Rehn, grazie agli sforzi fatti in Europa possibile allentare il rigore, frena la Germania e Schäuble attacca l'Italia, non può scaricare su Berlino i suoi problemi. Crolla il minareto di Aleppo, aveva 1000 anni, patrimonio dell'UNESCO, i ribelli accusano il regime, Damasco risponde, è stato minato da loro. Enrico Letta, la resurrezione e i grillini. Dice anche Beppe Grillo che Dio è morto, è vero, ma dopo 3 giorni risorge, perché lui questo non l'ha detto oggi. Nel mio spazio sotto salice, salice. Beh, sicuramente Letta non ha fatto quella figura di palta che invece ha fatto Bersani nell'incontro streaming con i grillini, dove mamma si è fatto chiaramente umiliare. Vogliamo sempre sentire, io sì, lo voglio sentire sempre perché sono innamorato di questo personaggio. Cosa? Sai che vorrei, non lo so, abbracciarlo, baciarlo, Grillo. Il sindaco di Salerno, De Luca, De Luca Salerno. Sui grillini, sulla Lombardi. Ma cose, io avrei voluto dire a Bersani, guarda Bersani, c'è una parola nel linguaggio italiano, nella lingua italiana, che è la parola dignità, che è un bene non negoziabile. Non si può tollerare la mancanza di rispetto da parte dei tuoi interlocutori. Questa che dice al presidente in carica, mi pare che stiamo a Ballarò. Ma va a morire ammazza e vattene, ma vai a andare a fare 2 passi davanti a Montecitorio. Ma come ti permetti? È una cosa incredibile. Non voglio Ministro subito, De Luca, 800 24 00 24, la Zanzara. Oggi Vendola ha detto delle cose sul fascismo e Berlusconi, cosa beh, ha detto? Oggi è 25 aprile. Sì, ma cosa ha detto sul fascismo? Anzi, ma perché non leggiamo? Per fare il governo e come? Ma oggi è 25 aprile, siamo all'Hotel Bruffani, ma lei sa cosa è avvenuto qui il 28 ottobre 1922 all'Hotel Bruffani? I quadriumveri. No, non me ne frega niente. Ma che come me ne frega niente? I quadriumveri prima della marcia su Roma, proprio qui al Bruffani, e noi siamo qui in un giorno di libertà a celebrare la democrazia, leggiamo tutta la Costituzione, per esempio, sarebbe bellissimo questo. Adesso basta zanzare, scoregge, basta, fine. Leggiamo la Costituzione italiana, oppure le lettere dei condannati a morte della Resistenza, sì, le lettere dal carcere di Gramsci, sicuro. Bellissimo. Tu quante manifestazioni del 25 aprile sei andato in vita tua? Beh, tranne oggi che sono qui, le ho sempre, fatte tutte, sempre. Quasi tutte. Sì, ma col drappo così. Ma che tutto? Drappo? Il 25 aprile, certo. Sei andato sempre, no? Beh, ma che non credo. Ma io che non sono sembra mai andato. Sembra che sia la manifestazione dell'Andrangheta, no, me lo dici no. Come fosse quello. Beh, sentiamo. Dice, sei andato alle manifestazioni del 25 aprile? No, perché io non sono mai andato. E hai partecipato a una cena con Buscetta? Cioè, ma no, no, è un'altra roba. No, il 25 è che aprile, mi fanno orrore le manifestazioni in generale, capito? Che devo fare? Sono ma fatto è, così. Cioè, no, hai ragione. È il 25 aprile, come Brunetta, voglio sentire Brunetta. Francia. Voglio sentire Brunetta che si sente. Che c'entra Brunetta? Aspetta, no, perché aprile. In questo momento sembra il vero, uno dei veri vincitori, no? Parla di qualsiasi cosa. Per esempio, dice dovremmo avere tutti i ministri noi per realizzare il programma. Cioè, è un bel modo di affrontare. Mettere senti, tornelli da Brunetta, solo tornelli. Brunetta. Quantomeno noi dovremmo avere tutti i ministri necessari per realizzare tutti i punti del nostro programma, a partire dalla eliminazione dell'IMU sulla prima casa e dalla restituzione dell'IMU pagata nel 2012, nonché la cancellazione dell'aumento dell'IVA di luglio. Questi sono i nostri punti dirimenti. E poi che vuole ancora? Cioè il Ministero della Giustizia, l'eliminazione delle intercettazioni, che vuoi di più? Stiamo perdendo tempo. Fannullone. Cretino, fannullone cretino. Sì, ma non lo fai benissimo no, questo, lo so, non lo fai. Però bene, abbiamo con noi uno dei critici di questa svolta del Partito Democratico, Pippo Civati, un applauso qui da Perugia! Ma dov'è? Allora, dov'è? Ma non è qui, non è qui. Pippo, ma non dovevi venire qui, buonasera. Sì, devo arrivare nel fine settimana. Ah, nel fine settimana, nel fine settimana. Senti, ma vorrei capire una cosa. Per esempio, se nel governo ministro, secondo me vuol fare il ministro. Ma che po'. Ministro? Pare sì. Che fanno ministro Civati, è beh, impossibile. Perché? Di la verità, è impossibile. No, non credo dillo, che ci abbia mai pensato nessuno. Neanche Civati. Non preoccupate. No, cioè, neanche lei direttamente. Allora, Civati, se nel governo ci fosse una persona, adesso lei mi dirà no, non è questione di nome, o forse sì, non lo so. Se nel governo ci fosse, questa sera mi sono fissato questa cosa. Se nel governo ci fosse Schifani. Ma perché Schifani? Ce l'hai con no, so, mi sono fissato. Dicono che sono io. Ma per me va benissimo. Io, sarebbe meraviglioso nel governo Schifani. Sai che è casino dopo un giorno. Vabbè, succede meraviglioso, voglio dire. Però, no, meraviglioso. Se stupendo. Se ti piace così. A lei farebbe una cosa che le farebbe orrore nel governo col PD Schifani? No, secondo me ci deve essere pure Berlusconi nel governo. Cioè? Ma su serio? No, cioè, serio sì, noi mettiamo il nostro leader Enrico Letta, loro mettono il loro leader che è Silvio Berlusconi. Cioè sarebbe coerente, dice lei, no? Beh, non capisco perché devo dire di no a Silvio Berlusconi, che autorità ho? No, ho capito. No, ma lei lo auspica o no? Sì. Non lo so, io non so che cosa deciderà il PDL, il PD ha deciso di affidarsi a Napolitano che ha indicato Letta. Se il PDL indicherà Berlusconi come ministro, non so che argomenti avremo da opporre. E lei voterebbe un governo con Berlusconi dentro? Voterebbe la fiducia? Secondo lei? E che no. Ne so, me lo deve dire lei però. Secondo me no, però è lei in Parlamento, non noi. Che bravo. No, bravi. D'accordo. Sì, no, d'accordo, però adesso al di là del gioco su Berlusconi, che come lei sa non sarà mai al governo, anche se posso capire la sua critica, dice siccome c'è Enrico Letta, giustamente il PDL pretende di mettere i suoi uomini migliori, questa le sembra una pretesa assurda dopo che Enrico Letta fa un governo insieme al PDL? Sì, ma se c'è Alfano che differenza fa? Cioè anche Alfano non va bene, dunque, secondo me. Schifo tutti sostanzialmente. No, no, no, ma questo non c'è dubbio. Cioè, allora mi faccia capire, ci sono secondo lei delle persone che proprio non ci devono per la possibilità minima in questo momento che lei dia la fiducia a questo governo? Non è questione di nomi? No, affatto, secondo me non funziona l'impianto, l'ho detto in tutte le occasioni in cui ho potuto farlo e mi pare che sì. Se c'è Schifani, se c'è Brunetta, se c'è la limitazione di Parenzo, se c'è... sono queste figure va benissimo, cioè è quello che vuole il cioè PD, lei la vota la fiducia la dà o no al governo? In questo momento alle 19:27 del 25 di aprile la dà la fiducia al governo? No. Anche perché ho dovuto ricevere gli attacchi del vice di Letta, un po' come se fosse Alfano per Berlusconi, cioè Boccia, che ha detto che quelli che non votano la fiducia sono fuori dal partito. Io mi auguravo che Letta e i suoi avessero interesse, visto che sono di larghe intese, di confrontarsi con tutti, anche con quelli che non sono d'accordo. Evidentemente hanno già deciso loro. Però è un passaggio diverso, qui non si tratta di opporsi a un disegno di legge, no, questo è il ragionamento che fanno. Siccome il partito ha deciso una linea, la fiducia o no è qualcosa, insomma. Il partito non ha mai discusso del governissimo, mai. Non ne ha mai discusso. Luigi Bersani ha sempre detto che noi eravamo contrari al governissimo. Non prendiamo più la gente perché già ci votano sempre meno, cioè adesso facciamo anche questo. Ma l'elezione di Napolitano. Però, lei ha ragione, però deve ammettere una cosa: ormai tutto è nelle mani di Napolitano, ormai il PD non conta più un cazzo. Adesso lo dico in maniera brutale, però ma la situazione l'ho detto è questa. Io, infatti, io sono stato uno dei pochi del PD a non votare Napolitano per il motivo che state dicendo. Anche perché sono venuti Bersani e Letta a dirci che non c'entrava nulla l'elezione del Presidente della Repubblica con il governissimo. Io non mi sono fidato e ho fatto bene, perché infatti stiamo parlando del governissimo. Ma potrebbe essere lei a uscire dal Partito Democratico? Se insomma, dopo la formazione del governo? Ma guardi, quello che fa Civati non interessa niente a nessuno, nemmeno a me. Vabbè, a me interessa che magari non si butti una giù. Cosa drammatica come quella che sta facendo, senza discutere. Magari alla sua famiglia. Non lo so, ma a nessuno no, magari alla sua famiglia. Qualcuno. Alla mia famiglia non interessa di certo. Senta, a proposito di espulsioni, ma invece i 101, questa famosa carica dei 101 che ha affossato Prodi, lei li caccerebbe dal partito, sì o no? Guardi, i 101 sono sereni e beati, perché nessuno rompe le scatole ai 101, le rompono a me, ma i 101 sono stati quelli che hanno avviato questa stagione, la stagione delle larghe intese, l'hanno fatto apposta, io non credo che non ci sia un voto distratto, e quindi... Però non sarebbe il caso, scusi Civati, non sarebbe il caso di tirare fuori un nome prima o poi? Perché non è possibile che nessuno dica, vabbè, io sono sicuro che quella vota... È una settimana che chiedo di fare il nome. Ok, ma lei avrà qualche sospetto? Avrà qualche sospetto? Cioè, secondo me ha votato contro Prodi questo, quest'altro, nome, cognome? No, sanno queste cose. Ci sono i mandanti di questa operazione, noi saremo costretti a diffidare di tutti quelli del PD, perché anch'io potrei non aver votato Prodi, capisce? No, io l'ho votato fortissimamente, certo. Però senta, ma domani l'operazione domani pare che escano, sì, la sento molto abbattuto. No, io guardi, sono andato al 25 aprile, io sto benissimo. Ho l'unico problema è che la bambina piange, diciamo. Adesso devo libero. La libero, però prima le devo annunciare che domani, durante una trasmissione che si chiama Agora, verranno presentati dei sondaggi abbastanza shock sul Partito Democratico. Dei sondaggi molto pesanti, cioè il partito perde. Che strano. Stiamo solo facendo l'alleanza con Berlusconi e perdiamo i voti, strano. Grazie, con questo chiudiamo. Grazie Civati, pubblicità, saluti, borsa, torniamo tra un attimo, riprendiamo subito. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Allora vi leggo una lettera che è arrivata oggi al quotidiano Avvenire, indirizzata ai due cialtroni presenti qui. Cialtroni in senso buono, ovviamente. Radio 24, la zanzara inaccettabile. Caro direttore, sono padre di 4 figli, farmacista in un piccolo paese di campagna tra Vicenza e Verona, presidente di consiglio d'istituto di una scuola primaria, elementari e medie, e di una scuola secondaria, liceo, impegnato a tempo pieno nella mia parrocchia e in tutto ciò che compone il mondo del volontariato. Scrivo questa mail per la prima volta perché disgustato dall'ascolto del programma su Radio 24 La Zanzara del signor Cruciani. Ho accompagnato mio figlio a pallavolo e in quei 10 minuti ho sentito una sequela di parolacce rivoltanti e ripetibili. Mesi fa era un programma intelligente, adesso è diventato volgare. Ho 56 anni e mai ho sentito una persona di cultura cadere così in basso. Crescere figli in questa società è diventato impossibile e personaggi così ci rendono la vita ancora più dura. Potete fare qualcosa per favore? Stefano Magagnotto, Ronca, provincia di Verona, ti abbraccio fortissimo. Resta con tuo figlio, oppure fai scansare tuo figlio, buttalo fuori dalla macchina, lascialo a casa. Che dobbiamo fare? Ci siamo ridotti in questo modo, lo sanno tutti, non abbiamo colpe, siamo noi, siamo fatti così. Ma chi c'è qua? Chi c'è collegato? Pronto? Ma vaffanculo, ma siete morti. Festival del giornalismo è una roba morta, non serve un cazzo. All'hotel Bruffani, ma ti rendi... Ti rendi conto di che? Sì, vabbè, ma bisogna collegarsi meglio però. Quando chiama qui alla Zanzara, Grillo, si deve collegare meglio. Hanno fatto cadere la linea, ma ti rendi conto o no? Raffaele D'Avellino, buonasera. Se vuole rimpiazzo io Grillo. Dica. Dicendo quello che dice lui, fondamentalmente. Cioè? Niente, io volevo intanto salutare tutti, salutare lei, complimenti. Se vuole aggiungo qualche parolaccia, ma... giusto per rincarare. No, ma non c'è bisogno, ma mica le parolacce devono venire così automatiche, cioè devono venire spontanee. No, infatti, ma spontaneamente mi verrebbero, ma lasciamo perdere. Sì. Allora, io volevo raccogliere. Ma su chi le verrebbero? No, sui grillini, mettiamola giù così. Sì, sì. E, anche perché io penso che la politica è un mestiere, ora non voglio fare come. Allora, io volevo raccogliere la sua provocazione riguardo. Un attimo solo, ma ci siamo ricollegati con Grillo, un attimo, vogliamo, ma che cosa ci deve dire ogni sera? Vi voglio dire che siete morti che camminano, siete finiti, siete della gentaglia, siete vabbè, dei poveretti, cretini, ho consumato un sacco di energia elettrica, io ad esempio a casa mia oggi ho tolto tutta l'energia elettrica, ho staccato tutto, ho preso mia moglie, quella poveretta, l'ho messa su una bicicletta, le ho attaccato dei fili alla dinamo, le ho messo degli elettrodi nel sedere e ho fatto farla pedalare per riaccendere tutta la casa. In Germania lo fanno ovunque. Ma come lo fanno comunque in Germania? Che cosa fanno? Prendono ogni volta le persone? Lo fanno dappertutto, in tutte le case, mettono le mogli con degli elettrodi nel culo e cominciano a farla pedalare con la dinamo. È chiaro, ma lo fanno ovunque, in Germania, è l'avanguardia. Voi siete ancora lì a buttare, con Facci, gente morta, vostro cuore, finita! Ma che c'entra Facci adesso, che non è nemmeno venuto? Vabbè, ha abbassato la... Raffaele, che voleva dire ancora? Sì, mi sente? Sì, la sento, allora... Sì. Sì, niente, volevo dire, io raccolgo la provocazione che lei ha fatto su sì. De Luca, grazie per la plata, su De Luca sì, ministro, ma non era per lei subito. Comunque. Allora, raccoglievo la provocazione su De Luca ministro, facevo un passo in più e io chiamo da Avellino, questa la dice lunga. Vabbè, ma se lei è d'accordo con me con De Luca ministro, ma che mi chiama Avellino, a fare? Dai, cioè, no, chiama, volevo rincarare la dose, prossimo Presidente della Repubblica, perché... Sì, pure, vabbè, troppo presto, chiamato... ma no... E come è chiamato? E noi secondo me abbiamo lo sceriffo. Com'è? Lo sceriffo. Lo sapevamo, sì. Abbiamo noi siamo bisogno. degli esegeti, dei cultori del De Luca pensiero, dei biografi, dei biografi di un po' di polso. E poi dico. Di un po' di polso. Va bene, Mauro da Roma, buonasera. Mauro. Oh, ciao, pronto? Sì, vada. Sì, sì. Allora, no, niente, io perché ho visto oggi pomeriggio in diretta streaming quel povero Vicente Di Letta che si è messo a tavolino in streaming con quelli i grillini. Sì, però gliel'ha cantate, non è che ha fatto come Bersani che a capochino che faceva così ogni tanto, cioè gliel'ha un po' cantate a questi grillini. Ridicolo. No, è ridicolo lo streaming in generale, fare gli incontri streaming è una stronzata pazzesca, però. Certo, no, perché vedere sei persone che non fanno un cazzo con i valletti, le luci accese, secondo te è ridicolo. Ah, questo è il solito demente, guarda, vero? Quello che ogni tanto chiama, sì. No. Prego, guarda, lei quota demente, il demente del giorno, prego. Ma quali sarebbero, scusi, i valletti? Sì, non ho visto l'incontro streaming. Parenzo, scusa. Eccolo che si carica, forza. Sei un coglione. Eccolo, mi dispiace per il papà che deve che tappare anche il suo compleanno. Lei sa che ogni volta che qualcuno mi dà del coglione sono 1.000 euro, faccio lei il conto di quanto ho guadagnato questa sera. Che è successo, scusa, ma Mauro? Ma è fatto così, ma va bene così. Ma tu mi dici che questi quattro scemi messi lì con soletta che si guarda come un pesce fuori dall'acqua, che boccheggia, che non sa quello che deve dire. Ma dai, io ho assistito a streaming in diretta. Ma chi erano questi valletti? Ma perché assiste allo streaming? Vada a lavorare, basta! Ho assistito allo streaming. Allora, già 25, scusa, non lavora, scusa, ma è pazzo. Penso, scusa, non fai niente, mi dia del lei intanto. Allora, mi dia del lei intanto, perché non. Ti do del lei. Senti, Parenzo, facciamo così. Io adesso mi trovo un pochino debilitato, non posso muovermi perché c'ho un po' nel cervello sicuro. Fisico. Va benissimo, va bene a tutte e due. Però io vorrei incontrarvi a tutte e due. Dopodiché, Parenzo, ti faccio vedere chi è che va a lavorare tra me e te. capito? Eccolo qua. Io prendo quella specie di colletto del cazzo che c'hai, me lo annodo, ci faccio un nodino, capito? Perché se lo ridico, io la prossima volta che ti vedo un piazza da qualche parte, vengo, capito? Ti vengo a salutare, vieni. Ti stringo la mano e ti do anche del lei, capito? Mauro, guardi che io giro il suo numero alla Digos a Roma, glielo dico subito, Cioè giro il suo numero alla polizia a Roma. Ma si capisce che è una persona per bene. Ma pensa quanto mi metti paura. Ma si capisce che è una persona per bene, civile, si capisce subito, no? A testa di cazzo! Si capisce, no? Oh, se te prendo de corco, vaffanculo! Si capisce una persona per bene. Non ho detto questo, io ti ho detto che ti stringo la mano, ti do del lei, ti stringo la mano. Ma io non la voglio neanche incontrare, me la lavo la mano! Ma che ha fatto di male, Parenzo? No, ma che ha fatto di male? Che le ha fatto di male? No, ma mi dà fastidio fisicamente, non lascia perdere che lui ha fatto male a me. Sai, quando vedi quelle persone che ti danno fastidio fisicamente, no? Va bene, Mauro, grazie, ha preso pure un applauso, una cosa pazzesca. Mario da Roma. Si rimetta, mi raccomando, mi stia bene. Mario, dica. Sì, vada. Sì. Volevo parlare delle stupidacce che diceva prima Dario Fo, che era di sinistra, sta un po' da e poi c'è un barile. Volevo ricordare quello che ha detto Silvio. Sì, che ha detto Silvio? Che ha detto Silvio? Che vuole espatriare. Vuole espatriare perché c'è Prodi. E poi ancora non gli ha detto che l'ha fatto perché al governo che è colpa di lui che si è comprato De Gregorio. Ancora sta al tipo, dopo sentì. Ma chi l'ha detto? E lui scappa sempre davanti a tutti i processi. E poi salva sempre. E poi non mi riacco comunque. Non si fa così. Se c'è il processo lo devi affrontare. Non che sta male, fa tutte queste stronzate qua. È utile. Devi essere uomo, devi essere. Te Silvio. Non puoi fare un tronzo così. Hai capito? Quello io lo dico. Ecco, basta. No, però scusi un attimo, che adesso va bene che noi attiriamo. Ha chiuso il telefono. Va bene che noi attiriamo una manica di pazzi. È strano, però, che chiamino tutti in questa trasmissione, no? Rispetto al palinsesto di Radio 24. Lorenzo da Teramo. Strano. Fra poco collegamento con la Sicilia col governatore Crocetta. Ma Crocetta è morto. No. Lorenzo da Teramo, però poi ce lo vogliono far morire quelle 5 Stelle. Che cammina, un cretino. Pronto, Lorenzo pronto. Da Teramo, dica, sì. Buonasera a voi, complimenti per la trasmissione. Una telefonata pacata, finalmente una voce pacata, una voce tranquilla o no? Faccio la sua riflessione del giorno 25 aprile. Mi dispiace solamente non essere intervenuto quando c'era Dario Fo collegato. Credo che da troppi anni questa giornata, il 25 aprile, non sia festeggiata a dovere. Come bisogna festeggiarla invece? Bravo. E come deve essere festeggiata secondo lei? Ha ragione. È la festa di tutti. Secondo me ognuno, e in questa cesta ci inserisco anche il dottor Dario Fo, dovrebbe tirar fuori le proprie colpe commesse tanti anni fa. Fare mea culpa di questa scelta. Voi da giornalisti Lei parla del passato di Dario Fo, eccetera, sì, passato contestato, eccetera. Gliel'abbiamo chiesto mille volte, mi sono rotto le scatole di chiedere sempre le stesse cose. Ma io voglio arrivare ad altro, voglio non mettere in dubbio la sua professionalità e quella del dottor Paenzo. No, ma lei può anche mettere in dubbio, non me ne frega niente. Non la starei ad ascoltare se avessi dei dubbi. Vabbè, allora Lorenzo, vada al sodo, su. Voglio dire solamente che oggi il signor Dario Fo ha tirato fuori ancora una volta per attaccare il suo avversario politico. Difetti non sul programma, non su quello che hanno fatto, non su quello che possono o vogliono fare, ma ha tirato fuori il difetto, il nanetto, la parrucca. No, lei ha ragione, su questo devo dire che ha ragione, però io lo volevo far parlare su questo, non è che mi potevo mettere a contestare queste cose, lei deve capire un po' queste sottigliezze, grazie. La zanzara è quell'odioso insetto. A proposito di Brunetta, vi mettete un altro Brunetta di oggi, per favore, un altro Brunetta di oggi, su, così come di ieri, così conciliante con Letta, con l'accordo, cioè, mettetemi un altro Brunetta, su. La sinistra ha preso il Presidente della Camera, il Presidente del Senato, il Capo del Governo e il Presidente della Repubblica, stimatissima persona, è un esponente del Partito Democratico, quindi adesso tocca a noi, tocca al nostro programma e tocca ai nostri ministri per realizzare il nostro programma. Vuole fare un monocolore, PDL, forse monocolore Brunetta. Va bene, 800 24 00 24, in diretta da Palermo, il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, buonasera. Buonasera a voi sia. Buonasera. Applausi, qui ci sono un sacco di giovani che fanno il tifo per lei sicuramente. Per, grazie. È la primavera non palermitana ma siciliana. Ma che primavera? Sicuro, questi vogliono togliere, lo stanno affossando i grillini. Lo stanno un po' mettendo in difficoltà, sì. Però, ma no. Rientra tutto. Un'antichia, come ho si parlato dice, proprio arzino. Ieri con i grillini. Sì. Loro chiedono delle cose dentro il bilancio, fra l'altro sono delle cose che condivido, avevo sì. anche messo dei capitoli a proposito di queste cose, cioè, è tutto rientrato, sta dicendo lei. Il governo si sta adoperando per farlo. Sì. È tutto rientrato? Una incomprensione fra i gruppi parlamentari, ma io che c'entro? Beh no, lei che c'entra, no. Non so, è semplicemente il presidente della Sicilia, così il governatore. Glielo ricordiamo, sì, no? Voglio dire, vabbè. Però la dinamica parlamentare ha altre cose, no? Altre cose. Però scusi governatore, mi sembra che qualcuno si sia arrabbiato perché l'hanno vista sorridere durante l'elezione del Presidente della Repubblica di fronte a una battuta, una barzelletta di Berlusconi. Perché lui era un grande elettore. Abbiamo visto, io devo dire, una battuta simpatica. Che battuta detto? Era? Che facevo? Lo eliminavo, non lo so, qual è la cultura di questo paese, qual è? Appena vedi uno che non la pensa come te o un avversario politico, gli dai una coltellata. Mi pare che viviamo in tempi bui, se questo diventa il ragionamento. Tra l'altro è un rappresentante delle istituzioni, io non è che rappresento solo me stesso quando incontro il presidente Berlusconi, rappresento anche i siciliani di destra e di sinistra, rappresento un modo anche di fare politica che si può anche essere avversari col sorriso in bocca. Oh, facciamo un applauso a Crocetta per questa cosa. Ma la battuta qual è? Cioè, però? Loro pretendevano la battuta. Aspetta, adesso ci arriviamo. Però guardi, quello che dice non Crocetta. Non gliela dirò sotto tortura, neppure sotto tortura. Perché. Ma perché? Non è mica mistero di Fatima. No, Presidente, non è mica dossier Moro, Manco dietro minaccia di Rupara. No, vabbè, Presidente. Ma era una battuta un po' a sfondo, come dire, sessuale, come nello stile, diciamo, del campo. Come non vorrei che venisse usata contro il presidente Berlusconi, io non la dirò mai, neppure sotto battuta. Ma era sfondo sessuale, però. Ha detto una cosa simpatica, una parte molto simpatica che posso dire, che lui mi ha detto, appena mi ha visto, ma presidente, ma lei mi fa guai in Sicilia. E io ho detto, perché guai? Perché ho vinto. E lui mi ha detto, no, perché lei dice questo modello Sicilia, sti grillini. Dico, dire, se votano i provvedimenti che sono giusti, che faccio? Cioè, voglio dire, mi pare normale che andiamo d'accordo se votano delle cose insieme. Certo, la battuta non era quella. Beh, sul doppio voto di genere, poi il centrodestra ha votato a favore, quindi no. Vabbè, per dire, ma tutto così nella simpatia però di un ragionamento. No. Sì, d'accordo, però la battuta non era la sua risata, anche piuttosto crassa, diciamo la verità. Non era su quello. Tra gentiluomini la battuta rimane, altrimenti il presidente Berlusconi l'avrebbe detta davanti a una telecamera, davanti a un microfono di una radio. Certo. Cioè, voglio dire, non mi pare corretto. È giusto proteggere Berlusconi, giusto? Lei vuole proteggere un po' Berlusconi. È giusto proteggere chiunque, perché io appartengo a una cultura in cui una battuta di scherzo non deve diventare elemento di attacco per una persona, se quella battuta viene fatta in privato. Perché io chi l'attacca? Beh, non era troppo in privato, intorno c'erano dei deputati, dei senatori, c'erano le telecamere, non era proprio privato. Poi non è che una battuta di Berlusconi, noi siamo abituati a tutto, Presidente, cioè non è che se lei rivela la battuta è come rivelare, non so, il mistero del caso Moro, non mi pare. Punto. Ma manco, io capisco che voi siete curiosi, ma io non ci posso molto niente. Molto curiosi, lei mi conosce, Presidente. Non voglio appagare la vostra curiosità. Lo sai che ho incontrato il Presidente a cena l'altro giorno a Roma? Presidente Crocetta, no, è sempre così affascinante, Cruciani, le piace? Lenti, diciamo, questo è le cene, le pranzi. Io non vado mai a cena. L'altra sera era cena fuori. Crocetta, lei in una puntata storica della Zanzara ha detto che non ama, ma che, voglio dire, nutre una passione smodata per la cattiveria, per la fisicità del signor Cruciani. Vedendolo dal vivo conferma, Crocetta, questo? No, invece dal vivo è più simpatico, devo dire. Bello e dannato, eh? Bello e maledetto, come lo ha visto, come lo ha sentito, bello e maledetto, bello e dannato. È stato invece un così, quasi francescano, devo dire. Francescano. Cioè, esattamente, è una specie di è miserabile, nella vita reale è una persona simpaticissima, invece se capiti sotto le ghince della sua trasmissione sei finito. È un maledetto. Certo. Però scusi Presidente, io l'ho vista un bel ristorante, diciamo la verità, la regione Sicilia si possono permettere due bei ristoranti. Ci siamo visti al ristorante, ma mico ero con Berlusconi, io ero, no, ero con suo staff, con era con suo staff. Ha pagato lui il conto, no? Chi ha pagato la regione? Chi ha pagato la regione? Questo io sono disponibile a farla venire direttamente in ragioneria generale. Non ho mai pagato una cena con con le spese della regione. Mai. Senta, ma quelli che hanno aggredito quelli che hanno aggredito Franceschini al ristorante, ad esempio, sì, no? Esatto, a proposito di ristorante. A proposito di ristorante. Come li definisce? Come li definisce questi? Dei fascistoidi, dei miserabili, come li vogliamo definire? Degli anarco-insurrezionalisti. Intanto a me non mi ha aggredito mai nessuno e quindi anche questo sarà un caso da interpretare, no? Anzi. Cioè, ci sarà un motivo, dice lei. Al Parlamento sempre la gente si fermava regolarmente a parlare. Quindi con me. Dunque, chissà perché non aggrediscono me, invece aggrediscono Franceschini. Bisogna capire qual è il clima del paese. Penso che Franceschini già avrà capito, avrà perdonato, ma non esasperiamo i toni. Cioè, dice, a me non aggredisce nessuno. La gente è giustamente arrabbiata, però a volte questa rabbia la esprime in modo anche indistinto. Franceschini è una brava persona, cioè, voglio dire, non merita un'aggressione. Però voglio dire, da qui ogni fatto di dissenso sociale, trasformarlo in un elemento di criminalità oppure addirittura definirlo fascismo, mi pare un po' troppo. Io credo che bisogna dialogare sempre. Io uscivo dal Parlamento, discutevo, durante quei giorni in cui si votava nessuno mi ha aggredito, anzi si sono formati dei bei capannelli. Mi ricordo, proprio l'ultimo giorno c'erano circa 150 persone, su 150 uno solo mi ha urlato: avete letto quello del capo, il presidente dei suicidi? Poi, voglio dire, che Napolitano sia uno che inciti la gente a suicidare, è un cretino, ma la gente che va in piazza. No, certo. Però c'è da aver paura. Allora, però scusa, politico, io andare al ristorante. Voglio dividere le questioni. Innanzi, scusi un attimo, voglio definire questa cosa del ristorante. Allora, perché dobbiamo essere trasparenti qui. Assolutamente trasparenti. Io ero in un tavolo, se vuole Crocetta dice con chi ero io, ma io non lo voglio dire. No, diciamo. No. Lo dovrebbe dire. Perché lo dovrei dire io? Era con una donna? No. Sono una persona che rispetta la vita privata degli altri. No, però io, siccome lei fa, non è che io faccio politica, è lei che dovrebbe essere trasparente, ma non mica stava con i criminali, stava con persone. Ma tu con chi ero? Con Peppe Lumia. Con Giuseppe Lumia, deputato del Partito Democratico, con la signora Stancheris, neo assessore al turismo della Regione Sicilia, e poi c'era un altro signore un po' scuro di carnagione. Chi era quello là? Sembrava un tunisino. Era un ex senatore, un ex deputato del Partito Democratico che doveva ricardinare. L'onorevole Cardinale siciliano. Allora il conto lì, il ristorante Tullio, il conto è piuttosto salato, là, Ma io l'hai pagato tu o no? Alla romana. E Presidente, le chiedo qualcosa sul governo Letta dopo la pubblicità. Rosario Crocetta in diretta da Palermo, noi qui a Perugia, Festival del Giornalismo. Applauso, grazie, anche se non volete. A dopo. Dal vivo è più simpatico, devo dire, non è così cattivo. Mi è sembrato invece un così quasi francescano, devo dire. Cala. Dell'utile che si inserisce. Cala. Siamo qui 800024 sempre da Perugia. Buonasera a tutti, Festival del Giornalismo, La Zanzara live. Applauso anche per il presidente della Regione Sicilia, Rosario. Fate l'applauso tu. Bello questo pubblico pagante, viva la... sono tutti pagati, Presidente? Il risultato in ogni caso. assolutamente. Scusi, presidente, ma. Ma lei si fidanzerebbe con Cruciani, oddio, ad esempio? Oddio, si è fissata questa cosa. Ho detto, se visto che ti considera. E la dote, scusi, la dote. Il problema è la dote. Di che tipo? Che non dote? È particolarmente ricco. No, lo so, faccia lei. No, ma però potrebbe essere, no, scherzi, ma potrebbe che, essere il suo tipo. Bisogna vedere che dote intende. No, no, no, sei il solito, no. No. No. Che dote intende, è presidente, scusi, governatore della Sicilia. Sì, no, comunque, no, diceva, ma no, ipoteticamente, no, ragioniamo per assurdo. Ma perché ti sei fissato con questa cosa? Sto è tutto il giorno del giornalismo d'inchiesta. Smettila subito. Allora, dai, giornalismo d'inchiesta. Ah. Insomma, allora, vi siete fissati con sto matrimonio, ma sto matrimonio ormai non lo vuole nessuno. Nessuno si vuole più sposare. Ah, perché si sposerebbe un po' retro, devo dire. Con Cruciani, no, ma infatti lei ha ragione, dica no al matrimonio gay, i matrimoni gay è roba da no, io dico no ai matrimoni in generale, guardi, in generale, sì, ma lei ha ragione, non lo dica matrimonio. A me lo dice proprio, è l'ultima cosa che mi viene in testa. Vabbè, certo, sfondo una porta aperta. Vabbè, qui torniamo, presidente, un attimo alla regione Sicilia. No, ma che regione Sicilia? Non c'è quali sono le grandi riforme che ha varato? No, presidente, scusi un attimo, ma se dovessero fare un governo, io mi sono fissato oggi con questa cosa, sì, un governo PD-PDL, come sembra ormai certo, innanzitutto questo governo a lei le fa schifo oppure è meglio avere un governo anche con Berlusconi? Che domanda orrenda che ho fatto. Comunque, qual è la domanda? Mi pare la stessa cosa, però. No, voglio dire, ma l'idea di un governo PD-PDL, cioè, le fa schifo oppure no? No, le fa schifo un governo PD-PDL? Guardi, la domanda io credo che vada posta in altri termini. Cioè, noi abbiamo una, sì, situazione nel paese terribile. Sì. Nessuna delle forze politiche ha consegnato dal paese la maggioranza. Allora bisogna rispettare un dato elementare, cioè che quello della volontà del popolo, che è molto importante, che forma poi i processi democratici. Sì. Noi pensiamo sinceramente che oggi si debba andare nuovamente alle elezioni per raggiungere lo stesso risultato dell'ingovernabilità, magari si spostano un po' di voti da uno schieramento all'altro, per ritrovarsi perché in una situazione di blocco drammatico, sì, oppure dobbiamo fare le elezioni fino a quando i grillini non hanno una maggioranza relativa, oppure un'altra formazione, il centro-sinistra abbia la maggioranza relativa o il centro-sinistra. Non mi pare che questa sarebbe una bella prospettiva in un paese dove la disoccupazione ha raggiunto livelli spaventosi. Benissimo, dunque, dove gli imprenditori non hanno nessuna prospettiva e dove si perdono posti di lavoro e falliscono le fabbriche. Dunque, viva l'accordo col Cavaliere, lo dica, presidente, viva l'accordo col Cavaliere, lo dica chiaramente. Beh, è così, bisogna prenderne atto. Senza paura. Io sto dicendo quello che c'è bisogno in un paese. Noi abbiamo bisogno però di una squadra di uomini e donne che sia riconoscibile come novità, che possono stare per esempio, insieme. Schifani. Signor Schifani, lo vorrebbe al governo lei? E qui ogni volta insomma, Schifani, non è che non proprio io farei le manifestazioni per quello non è proprio un supporter, ecco, voglio dire, quello no, cioè lei con un governo con un governo dove dentro ci sono, che ne so, Schifani, Brunetta e altre persone, stringerebbe la mano. Brunetta lei mi fa venire la solidarietà, perché prima ho sentito quelle cose su Brunetta, non mi sembra molto carino ironizzare chi l'ha fatto attorno Dario Fo, Dario Fo, è lei nobile, persona, non è un quisque del babbulo qualunque, è una cosa veramente brutta, no, si rispettano sempre le persone, non sarebbe un su di governo che mi piace, lei ha ragione che la scelta di Letta sia una scelta già interessante, perché in qualche modo mette in campo una nuova generazione, che spero che tutte le figure che vengono fuori, al di là delle loro sensibilità politiche, siano in qualche modo figure non compromesse con i vecchi governi, per cui non si debba avere la sensazione di dare una al paese che si sta facendo, sì, una sorta di... Però Presidente, scusi un attimo, torniamo al tema del giorno. Sì. Presidente, scusi un attimo, allora facciamo però un ultimo tentativo lo dobbiamo fare su questa storia della battuta che ha fatto Berlusconi. Lo so che sono insistente, lo so che sono rompiscatole, sono fatto così. Allora, siccome non è veramente la rivelazione, facciamo uno scambio. Io rivelo chi c'era al tavolo pubblicamente con chi ero a cena quella sera. Questo è buono. Tutti presenti in quel tavolo lì, e lei mi dice la battuta che ha fatto Berlusconi. E quale sarebbe lo scambio? No, vabbè. Sì, c'ha ragione anche lui. Sì, vabbè. Cioè, chi se ne frega di conquistare il voglio dire. No. Confessione per confessione. Voglio dire, non è che il fatto di andare a cena con qualcuno sia un gesto criminale. Lei fa no. Ma confessione per confessione. Lei mi dice Berlusconi ha fatto una battuta a sfondo sessuale. Mi dica quella, era una battuta a sfondo sessuale. Questo è chiaro. No, perché lei. No. Assolutamente. Vabbè, già questa è una notizia. Comunque chi la critica perché lei si è messo a ridere davanti a Berlusconi? È un cretino, sì o no? Ridere. E che dovevo fare? Dovevo piacere, scusi. No, appunto, ha ragione, ma allora dica chiaramente chi mi ha. Qualcuno che ha ancora la forza di ridere in questo paese. Appunto, bravo, ha ragione. Ma le racconta bene, le fa bene le barzellette Berlusconi, fa delle belle battute oppure. Devo dire che sul piano strettamente privato Berlusconi si rivela sempre una persona di spirito e simpatica. Oh, questo va detto tutto. Mi sembrerebbe veramente di cattivo gusto che io ripetessi una sua, anche per non copiarlo. Ah beh, certo, non c'è dubbio, magari la rifarebbe male, no? Lei non mi sembra una persona però che racconta. No, appunto, lui è più bravo. È più bravo. Scusi, le piacerebbe avere al governo Berlusconi? Cioè, sarebbe giusto avere al governo? Dire con molta sincerità no, proprio no. E perché no? Perché no? C'è stato e non mi pare che gli effetti siano stati così esaltanti, ecco. Mi pare che siamo arrivati a monti proprio perché c'era Berlusconi prima. Certo. Un'ultima cosa che Parenzo ha sempre... No, torniamo al tema del giorno. Quindi lei si fidanzerebbe con Cruciani potenzialmente? Che palle. Non mi fidanzerei con Cruciani perché questo presupporrebbe la prospettiva di un matrimonio. No, ma una fuitina, una laica fuitina. Sono contrario al matrimonio, sono quindi anche contrario al fidanzamento. Ma solo una fuitina d'amore? No. Da Palazzo d'Orleans? Una poesia d'amore perché no, voglio dire, mica è un peccato. Una poesia, una fuitina, una scampagnata d'amore un giorno. Una fuitina è un po' impegnativo. In Sicilia poi la fuitina sempre si ripara col matrimonio, c'è il matrimonio riparatore, per cui evitiamo anche la fuitina. Insomma. Sì, ma che so, una notte meravigliosa in un posto splendido. Sì, l'onore, ecco, voglio dire. Ma una notte a Erice, ad esempio, lei e Cruciani, la notte a Erice, quando c'è questo cielo pieno di stelle, no? Il cielo stellato sopra di lei, la legge morale dentro di lei e questo Cruciani e questa zanzara e questo Crocetta insieme. Con Zichichi, insieme a Zichichi. Con Zichichi, un mucchio, ecco un super mucchio, Cruciani, Zichichi. Vabbè, Presidente, grazie. Di domani mattina, cioè lui continua a fare la zanzara e io il Presidente della Regione. Beh, questo certo, sarà San Dio. Grazie, Presidente. Grazie. Abbraccio. Senta, dia del cretino a quello che l'ha criticata per quella risata davanti a Berlusconi. Certo che non solo cretini, ma anche portatori di una logica barbara, cioè che l'avversario politico sia un demone da eliminare. Cioè, voglio dire, si può anche non essere d'accordo politicamente, come io non lo sono, con Berlusconi e rispettare le persone. Grazie, a presto, pubblicità. Per esempio a me mi manca. Che le manca? Un cicciolino cinese. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura. Sei fissato, parli sempre di sesso, è una cosa pazzesca. Ah, io, Sì, sei malato, ogni volta devi introdurre col Presidente della Regione Sicilia l'argomento sesso. Qui è il bue che dà del cornuto all'asino comunque, perché... Intanto è iniziato il lecchinaggio nei confronti di Letta, diciamolo chiaramente, ormai c'è la geografia, per esempio a porta, ieri sera addirittura. Vabbè, cioè, esiste ancora porta a porta? Sì, certo che esiste, non fare il cretino. No, no, per carità. Ma certo che esiste porta a porta. Adesso perché vai a Rai 3 devi no, no, denigrare porta a porta. No, dai. Io adoro porta a porta. Enrico, lei porta a porta io. Adesso che stai per diventare un uomo della Rai, dovresti calmarti sulla Rai, perché sennò potresti passare i guai. Ho sempre detto, allora, che voglio bene a Gubitosi. Un attimo, sei tu, un attimo. Eri tu quello che parlavi male di Gubitosi. Stai zitto, uso la Vespa blu 1998. Franceschini, la riunione comincia tra poco. Sì, sto aspettando Letta perché dobbiamo andare a litigare duramente. Ministro, l'auto blu? L'auto blu per altri impegni, per gli impegni di partito a Roma, la Vespa blu. Allora, buon lavoro. Con tanto di canzone sotto. Paola De Micheli, fedelissima deputata del Partito Democratico, fedelissima di Letta, che dice... Beh sì, è un ottimista, il difetto che ha? Parla veloce al telefono. Potrebbe fare il ministro. Parla veloce al telefono. Beh, è un difetto effettivamente questo. De Michele. È un uomo positivo, è un ottimista, non è un pessimista. Vede il bicchiere mezzo pieno. E poi ha qualche difetto, parla troppo veloce al telefono, risponde ai messaggi in un modo che non si capisce niente. Sta poco fuori a cena. Beh, grandi difetti ha individuato. Ma cos'è quella musichetta che hanno montato sotto? Cos'è quella musichetta lì che hanno messo sotto? Non lo so. Giuliano Ferrara, Berlusconi o si impegna nel governo, lo so, forse la supercazzola. O si impegna nel governo oppure ricomincia la supercazzola, Ferrara. Come una piccola zanzara. Presidente Schifani, con tutto il rispetto per lei, per Berlusconi, che ripeto, mio caro amico, vi impegnate a risolvere i problemi del paese oppure ricomincia un gioco diciamo simmetrico a quello che potrebbe fare il PD se non recupera sulla sua sbronza, cioè ricominciate con la supercazzola, per cui andate ad arrestare la Boccassini, non possono, andate ad arrestare la giuria che deve decidere sulla truffa fiscale, non possono, Napolitano non può strozzare la Boccassini. È un invito al PDL a non rompere troppo le scatole, ma insomma la realtà è questa, quello che stiamo assistendo in queste ore, a cui stiamo assistendo in queste ore, cioè quel PDL che dice vogliamo togliere l'IMU, devono seguire il nostro programma economico, vogliamo questi ministeri eccetera, non conta assolutamente nulla, perché alla fine la quadra si deve trovare e si troverà per forza, perché decide uno solo. Io sono molto contento quando c'è uno solo che decide. Napolitano, ma non perché Giorgio. Sono di destra eccetera, perché in realtà non lo sono, perché quando c'è chiarezza, quando c'è un potere forte, sì, è meglio così. Questo un po' è meglio perché sennò fanno i tavolini. Decide uno solo, uno di 88 anni che sta lì, il presidente Napolitano, decide solo lui. La concertazione. No, una cosa orrenda. Meglio che, molto positivo che Letta non abbia incontrato le cosiddette parti sociali. Sociali, sono tutti poi le parti sociali. Che, Prodi che avrebbe fatto? Con calma, ma se, lentamente, devi arrivare lentamente. Un tavolo, parlare delle ore, lentamente, basta urla, basta sghignazzi, frizzi e lazzi, violenza, Cruciani, no, Beethoven, la musica di Beethoven, basta, zanzara, chiuso, ma perché perché lei, perché è fastidioso, non voglio dire rompe i coglioni perché non è democristiano, bisogna fare con calma, solo Barisoni, il signor Spezia, basta, urla, adesso leggiamo, parliamo dell'Europa adesso, Spinelli, Altiero Spinelli. Calma, tranquillità, serenità. Traffico, torniamo tra un attimo. Strade in diretta. Situazione abbastanza tranquilla su strade e autostrade, a parte un po' di traffico di rientro, si rallenta a tratti lungo la carreggiata verso Mestre della statale 309 Romea tra Emilia e Veneto, permangono le code per lavori sulla diramazione Lucca Viareggio tra Massarosa e Lucca San Donato, si resta in coda in entrata a Roma sulla pontina tra Castel Romano Trigoria e il grande raccordo anulare. Torniamo tra mezz'ora. La Zanzara. Quando la zanzarita tormenta la mia noce. Eccoci qui, 800 24 00 24. Basta, ripeto troppe volte il numero. Rosalia da Rimini, buonasera. Rosalia da Rimini, sono infrocettato. Mi viene da ridere, lo sa perché? Perché io sono sempre stata una sua ammiratrice. Tant'è che la seguivo da anni e non sapevo che faccia avesse. Male, molto male. E sono venuta a conoscerla quando ha fatto la regione per Emilia alle Alpi. Beh, tanto tempo fa, sì. Come? Tanto tempo fa, diversi anni fa, sì. Ma 2 anni fa sarà stato, 3 anni. Sì, ce n'è, per me 2 anni sono tanti, c'è il dottor Parenzo. Per piantare una conversazione su questo. Vabbè, allora? Sì, sì, ho fatto anche una foto con voi due, perché adesso vi si vede in televisione, così, una volta no. Allora... Io volevo solo fare un'osservazione, cioè sì, a me piacevate molto, sì. Siete ancora abbastanza pungenti e tutto, però sì, mi sembra che siate diventati piuttosto scurrili. Quel signore che ha telefonato, prego? No, no, lei dice, non lo so, io non me ne rendo conto, può darsi che sia così, no, è la vita, va così nella vita. Va così, la però vita va così, si cambia, si voglio dire, non è che, cioè, voi la vostra parte la potete sempre, magari eravamo così da sempre e non, sì, non lo mostravamo in pubblico. Ah, ecco, allora adesso che siete, sì, diventati famosi, invece ne approfittate. No, ma non ci ma adesso magari non mi trattengo più, prima mi trattenevo, adesso non mi trattengo più. Ha comunque tolto tutti i freni inibitori, insomma. Ma sì, adesso questo non esageriamo. Un leader però... politico come Grillo dice parolacce in continuazione, quello è un leader politico e non possiamo ogni tanto dire noi qualcosa. Adesso Parenzo fa l'interpretazione filosofica di questo, del nostro modo di parlare. Per quello che ho sentito io siete stati abbastanza calmi, insomma, però ma non mi dica così perché mi viene lo sconforto, no. se lei mi dice così comincio una tirata da qui alla 21 che non la finisco più. Vabbè, niente, era solo questo che volevo dire. Grazie. Una curiosità, me la può togliere? Pronto? Me la può togliere una curiosità? Dica. Ecco, siccome si parla sempre di tutti questi che mangiano a destra, mangiano a sinistra, abbiamo visto il figlio di quello là, della Lega, che c'ha lo yacht da 2 milioni, tutta questa gente che ha rubato, bisogna vedere se hanno rubato sul serio oppure no, comunque sembra di sì, sembra che con i soldi nostri, sempre con i soldi nostri, io faccio sempre questo gesto, con i soldi nostri, perché bisogna togliere il finanziamento pubblico, e oggi Enrico Letta ha detto, sembra una cosa, anzi no, sono alcune indiscrezioni, sembra che ci sia l'eliminazione del finanziamento pubblico con i soldi nostri. Eccole qua. Il figlio di Bossi pare che si sia pagato lo yacht da 2,5 milioni di euro, pare. Allora? Però pare lì, pare di là, quelli che comprano le case, voglio dire, ma i rimborsi di queste parti, di queste cose che hanno comprato, che continuano, non li ama nessuno. Come funziona questa questione? Cioè, è stato curato che c'è gente che ha comprato appartamenti intorno al Colosseo per delle stupidaggini. Lasci perdere, signori, il problema è che non è possibile nessun tipo di controllo per eliminare tutta questa roba qui. C'è solo una cosa da fare, con un tratto di penne. Io è uno dei pochi motivi per cui ho votato Grillo. Cioè, con un tratto di penna togliere il finanziamento pubblico, togliere immediatamente il finanziamento pubblico. La Corte dei Conti lo può fare, la Corte dei Conti. No, ma Grillo non lo direbbe mai, però basterebbe obbligare i bilanci dei partiti a depositarli presso la Corte dei Conti, cretino. Ma di che cosa parli, morto, che cammina sei? Paola dalla provincia di Venezia. Sì, pronto, sono Paola. Avrei voluto farle un elogio, ma purtroppo non posso proprio, sono diverse volte che seguo la sua trasmissione con assiduità e devo dare un giudizio molto negativo perché lei non ha il minimo rispetto per la dignità della persona. Sì. Ecco qua, sì. Inoltre mi permetta anche di dire che sì, ci considera tutti dei cretini. Beh, non tutti, però insomma, la grande maggioranza. Lei è una persona estremamente volgare. Sì, questa ha ragione. Bene, me lo dice anche mia madre, lo sa. Mia madre. O che smettete di fare questa roba. Sì, no, signora Paola. No, un attimo solo, scusi, parli con me, signora Paola. Lo sa, non vuole parlare con me, lo sa che me lo dice anche mia madre ogni tanto. Intanto ascolto... mia madre mi chiama e dice: io non ti posso più ascoltare. La signora Cruciani, sarebbe bello invitarlo una volta, la mamma di Cruciani. Luca da Parigi, buonasera. Forza, ascoltatori. No. Sono la mamma. Luca da Parigi, buonasera. Mi sentite? Da Parigi? Sì, ma da dove cazzo chiama? Scusi, da Parigi, io lei, da scusi, Parigi. No, a me mi fa molto piacere, però adesso va bene tutto, però uno in streaming ascolta da Parigi, poi prende il telefono e chiama. Ma dovresti essere con qualche rotello nel cervello. Ho sentito parlare il presidente Crocetta e devo dire che sono contro il presidente Crocetta, anzi siamo contro il presidente Crocetta. Se ne farà una ragione, il dottor Crocetta se ne farà una ragione. Dove sta a Parigi lei, scusa? Perché noi siamo a Parigi. Io lavoro a Parigi, accanto a me c'è il mio fidanzato Simone, anche lui lavora a Parigi, siamo qui da 4 signor Simone, anni. Applauso! La coppia gay da Parigi! Viva Hollande! Contro questa cosa. Perché Vico, il contro che? È un diritto anche per noi. Vabbè, ma scusi, ma perché, perché il signor Crocetta non può... Vaticano, perché... Il Vaticano è stato bravo, cosa? Simone, è stato il Vaticano in Italia che ha ostacolato questa cosa. E io non me lo aspetto da... Sì, è fidanzato. E non me lo aspetto da uno come Crocetta una cosa del genere. Non me la aspetto. Ma è il contrario, ma... Scusi, signor Luca, stia calmo. Allora, il problema è molto serio. Guerra nel mondo gay, questo è il titolo di oggi. Aspetta. Vedo già il titolo di Repubblica domani. No, ma stai zitto, ma che c'è tra la zanzara? Che coglione che sei. No, Luca, guerra, non è guerra. No, scusi. Anzi, noi lo stimiamo, però il matrimonio non è possibile che in Italia ancora questa cosa non si possa fare. È il Vaticano, no, sì, è il Vaticano, c'ha ragione. È il Vaticano, quell'altro dice il Vaticano. Ci passi il fidanzato. Però scusi, Luca, mi perdoni un attimo, dica, no, ma io questo dica lo dico io di solito, non lo può dire lei. Ma lei mi chiama, mi dice Luca, dica. No, ha ragione, dica, però Luca, mi fa un po' impressione. Allora, Luca e Simone, com'è che si chiama? Sì, Simone. Bello. Mettiamo la musica da matrimonio, una marcetta da matrimonio. Siamo due professionisti, io sono un avvocato e lui è un informatico. Ci amiamo da almeno 10 anni e noi vogliamo sposarci. È il Vaticano. Vabbè, ma adesso lei sta piangendo per finta, dai. No, non sto piangendo per finta. Io per questa cosa. Ha ragione. No, sì, questo è vero. Se lei sta piangendo sul serio, se ci sta coglionando, vengo lì a Parigi e la appendo alla dottore. Io l'ascolto sempre e ho grande stima di lei. Non capisco neanche quelli che dicono che lei è una persona volgare, perché gli ascolti parlano per lei. Sì, vabbè, però su questo non transigo. Sta piangendo veramente. Si è commosso veramente? No, ma su che cosa? Perché si è messo a piangere? Perché le dispiace che Crocetta, che il presidente della regione, è omosessuale? Scusa, mi sono inalberato un pochino. Chiedo scusa. Si è inalberato perché lui ha detto che non vuole i matrimoni. Vabbè, ma uno può essere, vuol dire, può anche essere padrone di dire... Cioè, ma è come chiedere, saprei sentire dire da un vegetariano che io devo mangiare la carne. Non è la stessa cosa. Lui ha detto di essere contrario al matrimonio in linea di principio. È legittimo, cioè ma legittimo, se nemmeno tra noi ci aiutiamo, se nemmeno tra noi, che lui che potrebbe dare una mano a tutti noi, come facciamo ad avere questo diritto? Datevi un bacio, vi prego. No, datevi un bacio. Sì. Voglio un bacio, adesso, un bacio adesso, da Parigi, paese libero, la Francia, adesso, non come l'Italia, no Vatican, no Taliban. Io sì, vabbè, però intanto noi i complimenti li facciamo a Cruciani. Esatto. Datevi un bacio, vi prego, perché io voglio combattere con voi una battaglia laica. Con questa omofobia. Basta. No, io omofobico, tutt'altro, anzi. No, però scusi, Luca e Simone, io. A Perugia. Volete venire domani? Perché? C'è il festival del giornalismo. Ma saranno affari nostri, perché siamo a Perugia, abbia pazienza. Facciamo però. Noi domande, scusi. Cioè, no, era una curiosità, visto che vi sentiamo sempre da Milano, non capivamo no, il perché. No, ma... festival, no, però dica la verità, che la Zanzara è la trasmissione più gay friendly che c'è in assoluto nel globo assolutamente sì, io azzardo anche questa cosa, Cruciani come Madonna, lei è un simbolo dei gay. Pronto? Tutto finito, lo sento. No, la sento bene. Però scusi, no. Luca e Simone, io vorrei che voi faceste pace con il presidente Crocetta, che è veramente una brava persona, è un grande sostenitore della causa. Però è contrario al matrimonio. Che vogliamo fare? È contrario. Io sono a favore anche dell'adozione. Per esempio, voi adottereste un bambino? Sì, volendo, sì. Se ce lo fanno fare, sì. Se ve lo fanno fare, sì. L'altro giorno in Francia hanno approvato una legge, no? È stato un colpo di fortuna essere qui a Parigi in questo momento storico. Vabbè, adesso un colpo di fortuna, sì. Perché è pericoloso girare a Roma, no? Ma scusi, venire in Italia è pericoloso. No? Voi girate in Italia tranquillamente. Per lavoro. Siamo andati fuori dall'Italia. Io, ripeto, faccio l'avvocato, Simone è un informatico. E siamo rimasti qui, siamo qui da 4 anni. Adesso da quanto tempo state insieme? Da una decina, quasi. Adesso faccio come Barbara D'Urso. Da quanto tempo state insieme? Da 10 anni. Quanto vi amate? Tanto. Che coppia bellissima. Li vedete? Fa il pubblico così. Che coppia straordinaria. Che coppia bellissima. Ma se domani noi veniamo a Perugia, ci siete? Ma perché il pubblico? Sì. Adesso non esageriamo però. Vi ospita Cruciani. Sì, vi diamo la nostra camera. Vi diamo Abbiamo un amico a Perugia che potrebbe ospitarci. Stiamo invitando da tanto tempo. Mi dica che è una telefonata vera. Perché non ci credo. No, Cruciani, sono serissimo. No, è una telefonata non è vero. Ci faccia sentire che è a Parigi. Ci faccia sentire che col telefono mette d'olio. Ma stanno a casa, stanno. È uscito per strada. Metta il televisore, accenda il televisore. Accenda il televisore, metta accanto il televisore. Il televisore sono fuori. Ma col satellite. Allora se è fuori mi passi un parigino Hollande, mi passi il signor Hollande. Le passo Hollande. Allora va bene, lo vado a cercare, no, se vuole. Voglio una prova, voglio una prova. Una prova che è a Parigi. Come ci faccio sentire qualcuno per strada, uno che parla francese per strada ci faccia sentire, sennò può essere ovunque, anche a Bubù. Scusi. No, vabbè, ma che vuol dire? No, no, però vabbè, allora a questo punto io devo ritirare quello che ho detto sulla trasmissione. No, che ritira, no. Con rispetto, perché no, c'è rispetto. No, c'è rispetto, ma se uno dice che è a Parigi, vogliamo sapere se è vero. Scusi, lei chiama da Parigi, fa una telefonata in cui vabbè, allora a questo punto divento come Parenzo, un bacio in diretta, lo schiocco vogliamo sentire per chiudere, lo schiocco. Lo dico con grande rispetto, però non dovete, cioè, deve essere una cosa seria. Sì. Sì. Vabbè, ma che è? Ma che è questo? Questo, ma questo qua è la cosa quando si fa con le dita, è che così. Volete, che avete più chiesto lungo. Lo schiocco. Basta. Abbiamo chiesto lo schiocco. Basta. Vabbè, adesso stiamo prendendo prendiamo sul serio questa cosa. La commozione di prima, da che cosa veniva, Luca? Scusa. Era dovuta dal fatto che il presidente Crocetta mi aveva fatto inalberare, perché non è possibile sentire da uno come lui che è contrario al matrimonio. Per noi, italiani all'estero, avere qualcuno che possa difendere la nostra causa è importante, è fondamentale. Lui è inaccettabile. Esatto. È proprio inaccettabile. Vabbè. E siamo va bene, un abbraccio, grazie. Grazie. Ciao. Io ancora non ci credo, Pubblicità, torniamo subito, ultima mezz'ora. È il Vaticano. È il Vaticano. La Zanzara. Cruciani come Madonna, lei è un simbolo dei gay. È il Vaticano. È il Vaticano. Quello stronzo in regia che ha messo la canzone di Madonna. Ciao Perugia. È il Vaticano. No, non è il Vaticano. Siamo qui, Festival del giornalismo di Perugia, in diretta, la Zanzara, 800 24 00, non ne posso più, ma ditemi qualcosa quando faccio il numero. No, perché devi dare il numero, dai i numeri. Gianluca da Napoli. Gianluca. Buonasera. Sì, mi sente? Buonasera. Sì, la sento. Buonasera. Allora, non ci volevo mosciare dire tutto. Il signor Cruciani che si permette di criticare Prodi, e che Prodi è stato presidente del Consiglio e qualcosa nel bene o nel male l'ha fatto in Italia. Io non dico niente, ma uno può avere le sue preferenze. Scusi un attimo, Gianluca. A lei piace Prodi, a me non piaceva Prodi presidente della Repubblica. Sarò padrone o no? Perfetto, ma io voglio capire il signor Cruciani che cosa fa come parlamentare, qual è la sua attività, cosa ha proposto. Ma cosa che c'entra? Ma io non faccio mica il parlamentare. Ma perché abbiamo tanti problemi in questo paese, ci manca solo Cruciani in Parlamento, è tutto finito. Capire, perché lei va dal microfono, non l'ha capito, io sono un elettore di sinistra che sentendolo la sinistra continua a perdere voti con questo finto buonismo, manda ogni tanto le ambulanze e via dicendo. Ma con chi ce l'ha adesso, scusi? Continuate ma così, perdete voti. Ma non è un partito la Zanzara. Non sa nemmeno i problemi degli italiani. Va dal microfono, va casomai a Taggevini e si permette di parlare degli italiani. Ma vada in giro, faccia attività politica. Ma io non devo fare attività politica, ma quale attività politica? Ma quale attività? Ma ce l'ha con me, non ho capito. Sì, ce l'ha con te. Radio in televisione, l'unica cosa che fa o va alle 7 o va alle 24. Per forza alla 7, che devo fare? Devo fare attività politica. No, se la prende con te perché. Ed altro, è stare dalla gente, vedere i problemi della gente. Lei ma è la ministra, sono sul torpedone, viaggio, giro. Che non sa. Ma io sto in mezzo a voi, in mezzo a lei, uomo del popolo. Non ci funghi, fa l'intellettuale. Non serve. Ma che intellettuale? Ma manca per niente. Vabbè. Arrivederci, grazie. È il contributo importante. Grazie. Ludovico da Brescia, buonasera. Ludovico? C'è o non c'è? Vada. Ci sono, mi sente? No, volevo sapere che cazzo ci fa lei al Festival del giornalismo. Che bisogno c'è che lei vada a fare questa copertura al Festival del giornalismo? È bello perché lei è partito molto piano, no? Con una voce anche educata. È bello quello che lei ha detto, sì, dice effettivamente. No, lei non ci deve fare, lei non ha bisogno. Lei è Parenzo e Cruciani sono due guitti e hanno successo perché sono due guitti, non hanno bisogno della copertura, sì, di questa debolezza, della copertura del Festival del giornalismo. Sì. La copertura, quale copertura? No, ho capito, fallo parlare un attimo. Che no, è una debolezza, è una debolezza. Sì. È una debolezza. Ma lei dovevate andare si al sente festival così? Del giornalismo. No, ma da quanto tempo riscontra questi sintomi? Cioè, da quanto tempo sta così male, per capire? Circa 60 anni, credo. Ah, ecco. È tutto più chiaro. Tranquillo. È tutto più chiaro. Vabbè, faccia la solita dose, si riposi un po' e... Passano stasera? Passano, sì. Stasera passano, Ludovico? Mi pare anche remissivo. Sì, no, infatti, scusi Ludovico, ma passano stasera lei o no? Come passa qualcuno? Passa qualcuno a darle una carezzina, a darle. Sì, l'assistente sociale tutte le sere. Ah, ok. Beh, insomma, sembrava abbastanza. Vabbè, comunque, Pasquale da Foggia, grazie. Pasquale da Foggia. Sì, salve, buonasera. Cerco di farcela. E niente, praticamente ho sentito in streaming il colloquio tra Letta e il Movimento 5 Stelle, ma Letta mi ha colpito per la sua falsità, perché è riuscito a dire al Movimento 5 Stelle siete incomunicabili, dopo che negli ultimi 20 giorni il Movimento 5 Stelle ha provato a convergere sul Presidente della Repubblica, cioè Rodotà, per fare poi un governo, e però il PD si è rivelato per quello che è, cioè un partito falso. Sì. È un partito che punta solo all'inciucio col PDL per poi... No, guardi, io infatti dal punto di vista di Vendola lo capisco, è vero che doveva essere l'alleanza del secolo, quella tra PD e SEL, ma lasciamo perdere quello che è successo prima. Dal punto di vista di Vendola lo capisco perfettamente, ha tutto da guadagnarci dal punto di vista elettorale. Domani, ripeto, ancora attenzione. I sondaggi che usciranno mostreranno che SEL qualche voto in più lo prende. Breaking news, ultima notizia. Ma che dici? Saranno 18 i ministri. Ma già si sapeva oggi. Ah, sì? Ma non sei un cazzo. Antonio dalla provincia di Lucca. Antonio dalla provincia di Lucca. Antonio da Camaiore, mi devi chiamare Antonio da Camaiore, sì. Antonio da Camaiore. Sì, dica. Zanzara, mi fa piacere che siete il simbolo dei gay. Basta simbolo dei gay. Ma è possibile avere tu le unioni fra uomini e donne, forse? Ma è possibile? Non è possibile? E non c'è bisogno del Vaticano, non c'entra nulla il Vaticano. Io ho sentito quei due che sono della Francia, ma mi fanno ridere della Francia. Sì, che non ci insensibile che è proprio. Io non l'ammetto sotto nessun punto di vista. Sì, lei non lo ammette, beh, ce ne faremo una ragione, Antonio, ma chi se ne frega se lei lo ammette o non lo ammette? Io sono a favore dei matrimoni gay e anche delle adozioni. Io vorrei sapere tua madre che dice, vorrei sapere tua madre. Non evochiamo la mamma, però. Mia madre. Comunque, effettivamente... mi va bene che la zanzara è però, il simbolo. Scusi, Antonio, la mamma è il simbolo dei gay, vabbè, dai. Pazienza, sarà diventata il simbolo dei gay, io sono abbastanza contento di questo, la però scusi Antonio. È il simbolo degli ultimi, no. Di tutti quelli che non hanno lavoro. Ma chi l'ha detto? Delle partite IVA. Non dovresti mai parlare. Però chi? Tu non dovresti parlare tu? Così ha detto a te. Anzi, Parenzo e Cruciani, senti, avresti uno che... Lasciamo perdere. Uno che? No, prego. Uno che? Che ti potrebbe andare bene? No, non ci credo, guarda. Cioè, chi è? Visto sotto questi punti di vista. Comunque, io sono contrarissimo, pur non essendo un centro nulla col Vaticano, io, No, perché dovrebbe entrarci al Vaticano? E dice non c'entro nulla. E io non credo che tu sia il simbolo dei gay, non ci credo. No, non ci credo. Pazienza. Scusi Antonio, però devo dire la verità. Mi va bene che loro debbano avere tutti i diritti, eccetera, eccetera, ma non mi va bene che si sposino, il matrimonio uomo e donna, e deve finire. Va bene, lo sa, però lei ha detto una grande verità prima. Effettivamente ha detto, sua madre che ne pensa? E questa è la domanda che faceva lei, no? Sì. O no? Sì. Lo so, però mia madre è contraria. Ogni volta che parlo dei gay inorridisce, dice no. Giuseppe, esatto. Una cosa, perché pensi che i gay si debbano sposare? Insomma, mia madre è una signora di una certa età, informissima, eccetera. L'abbraccio, però ogni volta che parlo di questa cosa qua, un po' è così, si ritrae inorridita. No, i miei sono più moderni da questo punto di vista. Sì, famiglia ebraica, borghese, padovana. Beh, che c'entra questo? Non è che questo. Ma hai visto cosa ha detto Beppe Grillo sul 25 aprile? Sì, ma tu saresti a stamattina, l'ha detto stamattina. Cioè, va bene che non hai fatto niente tutto il giorno, detto questa mattina. Ma l'abbiamo detto alla radio. Vabbè, grazie, no. Ciao, stai zitto. Morto il 25 aprile, è morto. Sì, lo so. Siete delle merde! vabbè, ho capito. A dare lezioni di giornalismo, Emilio Fede! Direttore! Emilio! Emilio! Emilio! Bunga Bunga Party! Bunga... Ah no, scusami, era un attimo eccitato. Mi prendete scusami. In un momento straordinario. Dove perché? Sei al bagno? No, ho seguito fino adesso una straordinaria telecronaca di allora, la morte di Berlinguer. Mio Dio, come la gente era più civile, come il dolore era vero, come i politici erano dei signori politici, come è diverso da oggi. Io ti giuro, non sono comunista. Ho guardato, mi sono commosso a vedere milioni di persone, ero al TG1 io all'epoca, credo la telecronaca fosse in promessa, ma guarda, ti assicuro che ho visto una cosa sulla quale riflettere, perché il mondo è cambiato in peggio, perché la gente era lì, gli operai piangevano per la morte di Berlinguer, la gente applaudiva, di rosso c'era solo il fazzoletto che portavano al collo. Io sono veramente, ho fatto una grande riflessione, siamo in un mondo politico che in gran parte non è degno di essere un mondo politico. Scusami, però direttore, mi sorge una domanda. Perché tu oggi, il 25 di aprile, ti sei messo alle 7:30 di sera a guardare il filmato con la morte di Berlinguer? Cioè, scusa, questo è un po' strano. Beh, non era, guarda, perché io il primo telegiornale che guardo è il TG3. Hanno mandato i funerali di Berlinguer a TG3? Hanno mandato come speciale dopo i funerali, l'addio a Berlinguer, che è una cosa suggestiva, ma al di là del dolore, certamente, di tutto, ho rivisto il mondo di allora, la Nil Deiotti, ho visto per Dio. Ma quando l'hanno mandato questi funerali di Berlinguer? Oggi che c'entra con il 25? Perché non è stato il 25 aprile il funerale di Berlinguer? No, mica è morto il 25. No, è morto il 13 giugno, mi pare, del 1984. Appunto, giugno. Sì, ho lasciato la direzione del TG1, era il TG1. No, è capitato, hanno voluto ricordare oggi, il 25 aprile l'ho voluto ricordare così, e hanno fatto... Perché ti è venuta in mente questa cosa? Ti è venuta in mente questa riflessione così filosofica sui politici di oggi? Quale grande leader potrebbe avere un funerale così, ad esempio, in Italia? Così, come dire, riverito alla fine da tutte le forze politiche, perché anche Giorgio Almirante andò a salutare. Ma certo, ma non c'era l'insulto. Io facevo il TG1, quindi ho fatto la cronaca di quando lui si è sentito male ed è morto mentre parlava, molto sul palco. L'ho seguita da giornalista, visto che parlate di giornalismo. Oggi è cambiato tutto. Metà del mondo giornalistico farebbe bene a cambiare mestiere, e metà del mondo politico farebbe bene a cambiare mestiere. E non vengono più rispettati i valori. Capito dov'è il discorso? No, certo. Io su Sky ho seguito l'incontro di Mirovico, Letta con quelli come si chiamano? Sì, con i grillini, che roba! Cioè, voglio dire, a un certo punto, dopo dimmi la tua, ho visto questa cosa e dico, ma che cavolo stiamo vivendo? Che mondo stiamo vivendo di urla, di insulti, cioè, capito? Ma dove? C'era urla, insulti dove? Come? Dove le sentite queste urla, queste insulti? No, in generale, no? Quando ormai molte trasmissioni sono lì a provocare, guarda che grida, che urla, giustamente si parla dei problemi, però è il mondo politico che per metà non è a proposito di funerali, direttore, tu come te lo immagini, per carità, fra 20 anni, 30 anni, per il carità. Funerale di Berlusconi, come te lo immagini dal punto di vista proprio iconografico, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista fotografico? Vogliamo immaginare questo, ma io non volevo spostare il discorso sulle persone che io non immagino, io sono uno che ha il terrore della morte, quindi non me la voglio neanche immaginare, però voglio non voglio parlare di Berlusconi, non è il caso, ho voluto fare questo visto però mi è venuto in mente, direttore, scusami, siccome mi è venuto in mente, tu hai evocato il funerale di un grande statista, che fu l'abbraccio di un popolo, fu una cosa straordinaria del mondo politico, ma anche sai, quando si dice comunista, cioè il mondo operaio che era presente era bello, era elegante, quale leader politico oggi, no, potrebbe, come dire, avere questo abbraccio di popolo, ma Cioè, voglio dire, alla fine il funerale di Berlusconi sarà come quello di Berlinguer, secondo te? Sarà non una in grande. In termini certamente napolitano, ma adesso si tratta di augurare la morte alle persone, ma per carità di Dio. No, no, no, no. Parlando della morte la si scaccia, tra l'altro, quindi è un modo per allungare la vita, esatto, alle persone. Quando uno ne parla. Bravo, Se lo prendiamo così, prendiamolo io così. Io lo dico così. Ecco, così. Come te lo immagini il funerale di Berlusconi? Per allungargli la vita ad libitum. Allungandogli proprio la vita, tanto si sa che fino a 120 anni sicuramente. Ma che dice la riduttiva? Della politica, certamente. È nella storia della politica. Avrebbe naturalmente i consensi, gli applausi, il rispetto, avrebbe anche magari quelli che girano le spalle, ma che è diverso, ma perché è diversa è un contesto politico diverso. Ragazzi, io ho 60 anni di giornalismo, da Einaudi, da Einaudi ad oggi, quando io andavo a trovare Einaudi, quando ho intervistato Einaudi, intervistavo un uomo straordinario, un presidente della Repubblica straordinario, cioè capito cosa voglio dire? Oggi il giornalismo è forza, lo sapete benissimo, ma anche dai, voi, si va a cercare l'urlo, l'insulto, la provocazione. Com'è? Ma dai. No, no, no, no, torniamo tra un attimo dopo traffico. Hai ragione, torniamo dopo traffico. Siamo come lei, siamo come lei. Siete delle merde! Eccoci qui, la Zanzara, Radio 24. Berlinguer era su Blob, mi segnalano, direttore? Beh, era su Blob perché diciamo la sigla è Blob. Voi avete messo. Era Blob, no? Avete non messo quella mia incavolatura, dire, spicolatura. Dalla quale in parte, ma solo in parte, mi vergogno. È diventato. Non ti devi mai. È stato il più cliccato, ma devo dire che lì ho preso. Non ti devi vergognare mai di nulla. Niente, non no, ti devi mai vergognare. È stato un grande direttore. Per esempio, dai un consiglio a questi ragazzi che stanno qui al Festival del Giornalismo. Come si fa a essere così distanti dal potere, per esempio? Così guarda, innanzitutto si è distanti dal potere quando tu sposi questa professione. Quando io l'ho sposata avevo 14 anni. Questa professione per l'amore verso questa professione, che è una missione vera. Oggi voglio dire, si va a cercare come uno stato symbol. Cioè, capito? Sì. L'impermeabile Beverly da parte. Una telefonata da Berlusconi, tu non l'hai mai ricevuta, no? Mi sembra. Una telefonata? Sì, una telefonata quando eri direttore. Beh, una volta sì, una volta mi ha telefonato a sorpresa perché non l'aspettavo, non mi ricordo, era, credo, non so se era una campagna elettorale o che cosa, ma guarda che dal punto di vista, la mia amicizia con Berlusconi prescinde dal rapporto editore e giornalista, ma anche perché io, scusate, se qualcuno ha dimenticato, no, qualcuno ha dimenticato la mia storia, ma io ho fondato l'informazione di Mediaset, l'ho fondata io ero direttore di tutto. Senti, come lo vedi questo Enrico Letta? Dammi la tua benedizione a questo. Fai la tua benedizione che servirà tantissimo al paese, soprattutto al Partito Democratico, per sciogliere i suoi ultimi dubbi. La benedizione sul governo che si sta per fare, il governo delle larghe intese. Vuoi che ti dica cosa penso? Sì. Che le intese saranno strettissime, che la durata di questa legislatura sarà brevissima. Perché dopo aver visto Enrico Letta le prese con come si chiamano, i due portavoce dei grilli là, cioè, non mi ricordo neanche, non lo faccio apposta, ma non mi ricordo neanche. Grilli, come no, lo fai apposta, lo no, fai apposta. No, uno si chiama Boldrini, non c'entra niente. No, Lombardi. Ma non lo so, Lombardi. Il portavoce, non lo so, ma giuro, Lombardi, guarda, non lo so. Si chiama Crimi. Uno Crimi. Lombardi. Ma che te ne sembra di questi due? Che te ne sembra di questi? Dammi una tua pennellata. Ma non una pennellata, sono due persone che sono messe lì, sono le persone sbagliate al posto sbagliato, di giusto c'è poco, ma vedi, io oggi ho fatto la passeggiata in campagna. Ma ti insultano ogni tanto per strada? Come? A proposito di insulto, ogni tanto qualcuno per strada che ti dice, incontri qualcuno che ti insulta? Ma guarda, senza voler fare presunzione, generalmente la gente che mi incontra dice scusi, ma perché se n'è andato dal TG4? Vuol dire nessuno si è preoccupato mai di tentare di capire che cosa sta avvenendo nel mondo dell'informazione. Ma non mi pare una grave, scusa, però a un certo punto, direttore, uno arriva a una certa età e uno può anche lasciare dopo tanti anni, non è che c'è niente di strano. Se uno è rincoglionito, ma io non credo di essere un rincoglionito. No, è lucido. No, ma non è tanto quello, perché nessuno. Vabbè, ho capito, ma però questo si fa nei regimi sovietici dove uno arrivava fino in punto di morte, Brezhnev, Andropov, governavano pure mezzi così imbalsamati, tenuti dalle flebo. Senti, i giovani devono avere il loro loro spazio. Io da direttore del TG1 a poi direttore del TG4, ma comunque avere fondato l'informazione, ci sono tanti giovani che sono cresciuti con me e hanno imparato e sono persone in gamba, sono persone che hanno sfidato la guerra in Iraq, gente, giornalisti con le palle, che siano uomini o donne. Io ma da quanto tempo è che non... Quote rosa, quote rosa soprattutto, gente straordinaria. Però non dietro i giovani che crescono, direttore, ci vuole qualcuno che mi faccia crescere. Io sono cresciuto con Biagi, sono cresciuto con Bernabei, sono cresciuto con Zavoli, sono cresciuto con i giornalisti con le palle, va bene? Ecco. Sì. E oggi non ce l'hanno tutti. No. Chi è che non ce l'ha? Ma dov'è adesso? Dove sei adesso? A casa? A casa, campagna, sì, sto dicendo che ho visto, mi sono visto in Milano. Tre, ho visto in campagna, pensavo. Ma sei lì a largo dei Cigni, no? Cioè, ai Cigni, stai lì ai Cigni, lì a no, come sono, si dice, non lontano dai Cigni. Diciamo sono vicina alle zanzare, no, alle farfalle, no? Cosa siete voi? No, zanzare. No, vabbè, ma vieni al Festival di Perugia domani, scusa, vieni al Festival di Perugia, fai qui con noi una lectio magistralis su il rapporto informazione, potere, politica, mi pare un tema, no? Potresti venire qui. Ma amico mio, io sono stato nell'esecutivo dell'ordine, il primo ma votato appunto a Roma. Vabbè. Sono stato vieni qui domani. Nei probiviri, sono stato... Ma io... Dire, non ho vieni ospite qui, ti aspettiamo qui in diretta dal festival. Io potrei anche venire. Quanti soldi ti devono dare ancora che non ti hanno dato? A chi? A me? Guarda che viene. No, io devo dire, non ho preso nessuna, sia ben chiaro, nessuna buonuscita da parte dell'azienda. Sto bene, non è certamente, non facciamo discorsi di soldi, non facciamo la retorica della Baldrini o Boldretti, come si chiama lei, no, che dice che lei al Quirinale ci va a piedi, dove? Dalla macchina? Adesso ho visto Ricoletta che entra guidando la macchina, non facciamo ridere, perché queste sono dei palliativi, voglio dire, ma che cosa vuol dire? La gente ha fame, ci sono 1,5 milioni di disoccupati veri, ci sono giornalisti che rimangono disoccupati, ci sono televisioni che stanno perdendo il percorso. Direttore! Direttore, ti abbraccio, a presto, ciao, ti aspettiamo. Ciao. Oh, mi lasciate ciao, così? Ti saluto. No, ma vieni a Perugia domani se puoi, scusami. E vabbè, perché no? Vieni, dai. Saluti a tutti. Ti vogliamo! Ciao. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. E da solo Giuseppe da Siena, buonasera. Solo lì a casa, lo so, no, ma viaggio lungo. Davanti ai cibi, Giuseppe da Siena, buonasera. Giuseppe da Siena, c'è o non c'è? Non c'è. Valeria da Milano. Sì. Valeria? Sì. Sì, buonasera. Buonasera, vada. Buonasera Cruciani. Senta, io invece non riesco all'idea di vivere in un paese dove i gay non possono sposarsi. Sì. Perché in un paese, quando ci sono dei cittadini che hanno meno diritti degli altri, ha un nome ben preciso e si chiama apartheid. Ma non è vero, non c'è l'apartheid in Italia, non è vero. Io sono a favore del matrimonio gay, ma in Italia non c'è nessun apartheid. Una forma. Non c'è nessuna apartheid. Non mischiamo cose assurde, l'apartheid. Non c'è nessun apartheid. L'apartheid era una cosa seria. Non... In Italia oggi chiunque omosessuale può vivere una vita tranquilla e serena, senza problemi. Dopodiché i diritti sono un'altra però cosa. Però è violento che uno non possa ereditare, ad esempio. Questa è una cosa molto violenta. È violento che non possa andare a trovare un compagno. Ma io non volevo parlare di gay oggi. Perché mi hai costretto a parlare di gay? Questo è violento. Vabbè, Maria da Verona, buonasera. Maria. Buonasera. Dica. Volevo dirle che dunque io l'amo, lei è anche parienza, però volevo chiederle parienza, lei. Però va bene lo stesso. Ehi. Sì. Grazie. Allora? Sì. Ah, benissimo. Dunque? No, mi fa piacere. Non è che uno chiama per dire io vi amo e basta così, ci fa piacere, però insomma esprimo il suo pensiero. Ma non è male telefonare alla Confindustria. Se gay, se lei è gay, se io sono gay, ma che cosa le interessa a lei se io sono omosessuale o no? Scusa, lei lo chiede a tutti, io non posso chiederlo a lei. Siccome è innamorata di te, è legittimo che ti chieda se sei omosessuale. Questa ragione. No, veramente ha detto anche che. Meno no, non ha detto, ha detto dall'altro meno ha detto, vuole sapere e sa che io non sono omosessuale, quindi siccome ha questa certezza vuole sapere da te perché ti ama se sei allora le do il numero di cellulare 335 segni Cruciani 348 l'occhio Maria comunque no, ma non, a me questa cosa di dichiararsi in un certo modo o in un altro non la però capisco. Diglielo, scusa, lei vuole sapere. No, non lo sono, non sono omosessuale. Un attimo Chi stiamo chiamando? Non lo so. ogni tanto non lo so adesso, quando risponde deciderò, cercherò di capire, lo so, chiamare Casaleggio, devi chiamare, è già Roberto, no, che servizio di segreteria. Va bene, Alessandro da Bari, buonasera Alessandro. Pronto, buonasera signor Cruciani. Vada. Volevo solo dire una piccola parentesi riguardo alle coppie gay. Io sono eterosessuale, però credo che non sia giusto che una coppia omosessuale non possa sposarsi e non possa adottare. Credo solamente, e poi la chiudo. Ma questo qua. Lei, scusi, adesso Alessandro, lei ci ha fregato, perché qua io leggo una sola riga: il PD deve darsi una mossa. Alessandro da Bari, io mi aspetto che lei mi parli del PD, invece mi parla di Froci, anche lei. Ho creato dei mostri. Però, no, non voglio parlare di PD, a riguardo alla situazione politica italiana. Devo dire solo una cosa: mi fa schifo perché devono smetterla con i soliti giochi di potere. Sembra di stare a guardare Beautiful, si prendono, si lasciano. Basta, noi vogliamo lavorare, vogliamo una politica pulita. Poi sentire Emilio Fede che si commuove vedendo il funerale di Berlinguer, per me è una barzelletta, è un colmo. Dovrebbe starsi solo zitto, perché Emilio Fede parlare di comunismo, lasciamo perdere, di sinistra Fede, cioè lasciamo perdere, veramente è ridicolo. Le faccio una carezza prima che passino due signori in camicia bianca. A domani 18:30. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. È il Vaticano. Radio 24. La passione si sente. La zanzara.